Edizione di Catta. Facciamo intanto Catta che descrive partire tutto quello che è l'audio. successo C'è negli un po' ultimi di 30. backstage. Sì, oggi sarà la descrizione definitiva. Sparato come si fa dopo 40.000 episodi? Senza via la diretta. Siamo al contrario. Comunque Arci consiglia 8-10 mila passi al giorno. Esatto, ragazzi, partiamo da questo. Intanto in ordine estraiamo la lettera, quanti passi avete fatto? Allora, va bene, va bene. Tipo 3. Comincio io. Salutiamo Francesco Arcidiacono, ma oggi. 276. Ah, è vero che Giulio. Sì, Giulio fa veramente la gara per. Ah, ma tutti voi siete ormai. Ma in effetti voi tutti sapete quanti passi fate, sono io che sono un vecchio E sono a stile. tipo 5-6 mila oggi, dai. Scemo, però dovevi Ha suonare quando iniziava la diretta. Avevamo messo il pensato. bardo. Sì, ma il bardo non è Fai ancora iniziato. d'accompagnamento. Il bardo non è ancora partito. Questa è The Last Dance, Last Last Episode, è il bellissimo il nome. finale, finalmente. In realtà quell'adesivo non mi è servito a niente, però vabbè, è stato comunque magari servirà per il futuro, chi può dirlo. Ah, è partito il bardo, o è scemo? Però ti Bravo, parla bravo, più di me. bravo, bravo! 84esimo episodio della maledizione di Fammi l'air Catta. guitar su. 84esimo episodio della maledizione di Catta. E questo è ovviamente l'epilogo, l'episodio finale, il Anche quello ukulele super definitivo. credibile. Tra l'altro il bardo suona malissimo oggi, io lo sento super scattante. Ah sì. Un po' sì. Ah, non so se è solo il mio problema, forse è un problema di Catta. Va bene, via questo bardo, Un bannatelo. problema E mi avete detto di Sceo, disco. Sceo dove va? Tra l'altro si Che chiama strano. Calvus, ora gli cambio nome. Guarda che c'è il riflesso di qualcosa sul microonde di Sceo. Dallo schermo. Calvus il bardo. Ciao mamma. Va bene, 84esimo episodio, la maledizione di Catta, lo sapete, è, o meglio, era la nostra campagna di Dungeons and Dragons, che oggi la porteremo Com'era? finalmente. E beh, di fatto è finita ormai, la portiamo oggi alla sua naturale e sofferta conclusione. Quindi, do il bentornato al nostro sceo, Stefano Gamberoni, oltre a lui, vediamo se si attiva. Ah, cosa ho detto? Io, Va bene, oltre a Stefano Gamberoni stavo abbiamo con noi. prendendo il merchandising Va dello bene, sconto. merchandising non nostro, male, male, male. Perché non Adesso sciocchi il non nostro? la scrivo niente. La mascherina non ti serve per questa diretta, però. Vabbè. La Nemmeno di che puoi cosa che ho fare. qua. Ah, no, Che la mascherina soldi gli hai nostra. dato alla Wizard? Bacca boy. Abbiamo anche Giulio Bosi, Marco Bosi e Edoardo Saladini, oltre al nostro master Enrico Catabrigane, Andrea Giacomo Vecchi. Allora, oggi giochiamo l'ultimo episodio e il bardo forse lo possiamo terminare. Beh, definitivamente, visto che è l'ultima, basta, Esatto, mandalo via. Non ci serve poi per Possiamo altre cose. terminare. Esatto, terminiamolo. No, vabbè. Ci potrebbero essere altre situazioni, però adesso, come adesso, non ci serve. Allora, chi vuol fare il riassunto? Ma aspetta, con riassunto cosa intendi? 84 Allora, episodi. Cos'è successo doveva mentre essere una tutto one shot, cambiato? cominciamo così. La Episodio one shot 1. più lunga della storia. Era il 31 ottobre 2018, correva l'anno. Davvero? Ti sei segnato la data? Tu Non dici usavamo la parola era come Halloween? cluster, come tampone, come... E era intorno, quindi boh, più o meno. Bacca boy. Era Halloween, sì. Era Sì, è Halloween. iniziata come one shot di Halloween. Esatto. Ti è Le piaciuta? one shot di Catta. Vabbè, che scappa al Esatto. momento del riassunto. se io non vedo uno di voi, cosa posso far, provare a fare? Ah. Magari è intenzionale. Ah, ok. No, continua a caricare la schermata di Salla, ma non lo vedo. Noi ti vediamo. Se non ti vedo più, adesso rivedo che carica. Niente. Boh, non lo so. Solo te. Io lo vedo benissimo. Sì, anch'io. Ma lo so che esce, ok. Basta che guardi la diretta per vedere Salla. Anzi, vedo anche bene la mappa complottista in alto. Sì, che non è mia, ma ok. Carino. Nulla in questa casa è mio. No, vabbè, qualcosa sì. Ok, il riassunto in terra straniera. Inizio io. Dai, vai. Bravo. Ok. Bravo. Dal mio punto di vista. Stavo leggendo un libro per celebrare una stupenda unione tra due persone, esatto. O almeno ecco, questo è quello che mi era detto, io non sapevo cosa stavo leggendo, quando all'improvviso siete entrati nella stanza interrompendo tutto ed è diventato tutto nero. Esatto. Se non paghi la luce... Con le parole del conte che mi ha detto... Se ti fermi sei morto. Esatto. Luci rosse nella notte di una foresta mi hanno spinto a muovermi dalla mia posizione e sei stato premiato con una spadata. Grazie che è stata solo una. Una spadata. Poi fade to black e... Strada è morto. Abbiamo vinto. Più o meno. Nel mio delirare vaneggiante ho parzialmente sentito Garrosh che stava lottando con la cultura per affermarsi come autore e cantautore. Tutta la libreria. Ricordo. In teoria ancora lì. Lotta greco-romana tra Atanas e il povero conte. Mm-hmm. Ho anche seccato coso. Ragni. Ah, la libreria è ancora viva. Cioè, quelle cose rimangono vive o... No, non rimangono vive. Ok. Tipo la mia nuova maledizione è il loop infinito di me che combatto contro questi oggetti animati. Noi il nostro l'abbiamo fatto, la libreria era tuo compito e non l'hai assolto, quindi... Hai ragione. Quindi dopo questa poderosa lotta contro il conte e la libreria, sono riusciti a riportarmi in vita mentre stavo fallendo gli ultimi tiri. Totalmente a gratis, perché tanto tu puoi risorgere tre volte, altro che Gesù Cristo. Magari uno vuole continuare a risorgere lo stesso, no? Perché vuoi sprecare del tuo primo risorgimento così? Risorgimento. Abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare l'Italia. Esatto, possiamo farla tre volte il mini al massimo, perché sprecarne una subito. Quindi con la finale sconfitta del conte eravamo pronti ad andare nelle catacombe, però ci siamo ricordati che abbiamo vinto. C'era la luce del sole e non si è voluto palesare. Quindi si è tramutato, ma in un cumulo di cenere. La sua morte finale è stata annunciata dall'arrivo di Radi, che con grande sconcerto ci ha confermato ciò che sospettavamo e ha deciso di raggiungere il suo padrone. E Vardistan non si sa dove è finito. Che fine ha fatto Vez? Boh. È andato a buttare il torso di Danilo. Secondo me sta aspettando che finisca. Sì, è andato giù, però è andato fuori strada. Non lo prende seriamente la raccolta differenziata. Esatto. Che passa stasera, quindi altrimenti se deve tenere una settimana in casa. Aspetta, è finito il riassunto. È finito il riassunto dal punto di vista di un boss. Ah, facciamo l'altro boss intanto. Sì. Non so, io ho picchiato un'armatura e una libreria. Non... Vedi, è finito il riassunto. Tac. Cosa abbiamo fatto? Eravamo raggiunti la biblioteca dove c'era Strad, in cui poi Sfortuna stava officiando il matrimonio. Uh-huh. Abbiamo interrotto la cosa, è diventato tutto nero e non vedevamo nulla, tipo. Esatto. E c'era però Irina in teoria sul tavolo, allora io tipo ho detto a Strad, vieni a combattici faccia a faccia oppure ammazzo Irina. Lui non si è palesato, anzi ha cercato con un vento... Ah no, di buttarmi via, ma io ho forza 25, quindi sono rimasto lì. E quindi ho pugnalato quello che pensavo fosse Irina, ma invece era Sfortuna. Vabbè, capita. Sfortuna vuole. Che... Sfortuna vuole. Perché Irina invece era da un altro lato. Però appena ho fatto questo è tornata la luce, cioè siamo tornati tutti capaci di vedere, non immersi nell'oscurità. Abbiamo iniziato il nostro scontro. Abbiamo ammazzato Strad, poi è arrivato Radin, abbiamo ammazzato pure Radin, E in tutto questo Garrosh era impegnato contro una libreria. Esatto. E voi avete battuto il primo che passava, il vero scontro era nell'angolo della stanza. Cioè. Il ring. Io proprio nel buio ho cercato di evitare i nemici facili, quelli vampiretti, quelli lì, ho detto no, io voglio loro, e mi sono fiondato contro la libreria. Ti ha menato per bene, no? Mi ha tirato qualche spallata. Strad è morto, il signore oscuro è morto, lunga vita al nuovo signore oscuro, che dobbiamo decidere chi sarà a questo punto. Quindi c'è uno stallo alla messicana adesso, voi vi guardate negli occhi. No, vabbè, andiamo a festeggiare la nostra vittoria, poi decideremo con calma chi vuole essere il nuovo signore oscuro. Bene. Hai vendicato il tuo vecchio amico. Ah, è vero, c'era anche lo spiritello di Ade. Eh sì, è perché Ade voleva combatterci e invece io l'ho convinto che no, eravamo noi i suoi amici. L'abbiamo liberato, quindi. Cosa succede alle anime... Il suo volto viene tramutato in un'espressione più serena e quasi beata nella sua condizione di ritrovata serenità, e ormai non si notano più i segni dell'ira e dell'odio che deturpavano il suo volto, e piano piano vedete che la sua immagine si affievolisce fino a che non scompare una volta che riesce finalmente a raggiungere l'aldilà. Vero, perché poi tra l'altro con la cosa nel medaglione lui proprio viene devastato, cioè, quindi non dobbiamo neanche fare tutta l'altra parte che avevamo. Esatto, tutta la parte della catacomba è stata fine a se stessa. Alla fine della fiera sì, però possiamo In realtà è servita perché tu hai avuto la tua armatura, figlietta. Bravo, hai ragione. Hai proprio veramente ragione. Il loot, che roba era, cioè. Ok. Ah, vabbè, a proposito di questo, io quella la devo riportare indietro. Se vuoi, sì. Sì, sì, sì. Merda, non te la posso rubare dopo. Ok. No, quella la riporto. Quindi... Nell'immediato futuro, oppure o comunque in questo istante, oppure no, in effetti, qual è la che il corso di azioni Io mozzo la testa a Radin. E va bene. Mozzi la testa. Io propongo per festeggiare di andare tutti nella foresta a cercare un vecchietto. In realtà non possiamo però indugiare, perché in realtà dobbiamo evacuare Barovia. Ok, ti ricordi, vero, che avevi già predisposto l'evacuazione degli abitanti di Kretsk, che quindi, se il vostro piano ha funzionato, adesso sono in salvo. E ora dobbiamo uscire anche noi. Va bene, e ora dovete uscire anche voi, se volete uscire. Quindi le vostre priorità di ognuno di voi sono: quella di Vardistran è di evacuare i poveri prigionieri. Dov'è la conclusione? Eccolo qua. Ok. È vero, non c'è tempo di lasciare la vita. Esatto. La nebbia che circonda la valle si affievolisce e non soffoca più coloro i quali cercano di attraversarla. Le nubi oscure che per secoli hanno coperto la vallata si aprono, lasciando il passo alla luce del sole. Traumatizzando ovviamente i baroviani, che non avevano mai visto nulla del genere. Melanoma, come se non ci fosse un domani. È stato preso fuoco. I baroviani interpretano questo segno come un messaggio che dice: il male da queste terre è stato purificato. Ok. Per ora. Ora la fuga è possibile. E molti baroviani realizzano che non si sta così male alla fine qua. Esatto. Guardandomi tuttavia, intorno, si vedono animali, anche solo dei volatili. Sì, c'era una legione di pipistrelli che a parte quelli relativi a strade, cioè in generale, visto che erano tutti non morti, volevo capire per curiosità se erano ancora non morti. No, quelli erano quelli evocati. Tipo il mio famiglio ancora non morto. Sì. Però esatto, loro. Il tuo famiglio adesso lo è ancora, sì. Che l'ha evocato prima. No, era solo evocati, sbagliati. Molti baroviani tuttavia realizzano che non hanno nessun posto dove andare e non hanno ragioni per andarsene. Alcuni però partono comunque. E tutto il tuo lavoro per questi ingrati, guardate. Fico. È morto. Quelli che hanno un'anima possono lasciare la valle, mentre quelli che non ce l'hanno spariscono nel nulla dopo aver fatto i primi passi oltre al di là del confine. Madonna, Vezza, hai ucciso un botto di persone. Cioè, io l'ho tipo venduta tra diverse entità. Perché poi tra l'altro, e poi di nuovo scompari. Ma che cazzo? Non so, schioccato le dita. Noi siamo considerati senza anima? No, voi ce l'avete. No, noi l'abbiamo venduta a diverse persone. La gente scappa terrorizzata. Cioè. è lo schema, è la bolla delle anime. Loro non sanno che hanno venduto più persone. Comunque, ma indietro, Strad, salvaci, cosa ha fatto Vardy, Strad? Io faccio comunque presente a quelli di Kretzky. Vardy sta nel suo folle piano. E ai Martinkov, eccetera, che ovviamente questa è una tregua temporanea, purtroppo. Mm-hmm. Cioè, purtroppo Barovia non ha una possibilità, cioè tornerà nell'oscurità, è stato scritto, e quindi questa è l'occasione per andarsene. Esatto. Ma poi lo scontro ai piani bassi si era fermato poi, sì. Sì, adesso sì, che chiaramente mentre voi andate a fare la boss fight, Irina è lì che è svenuta. E l'avete lasciata per terra. No, vabbè, la portiamo via. E non so lei però se può stare. Lei si risveglia, perché no? Boh. Dipende da cosa vuol fare. Esatto. Adesso ci arriviamo. Comunque sì, la rinviene e sembra essere ritornata in sé. E non crede. Arabella, come si chiamava? Come sta? La bambina che ha dato il centro delle strecche. Dentro alla la libreria, sì, che stava combattendo Garrosh, si inanima, torna inanimata, e dietro vedete che c'è nascosta in un angolino, appunto, c'è questa piccola personcina che riconoscete essere la vostra amica Arabella. E sembra che l'effetto del dolcetto stia svanendo, per quanto abbia ancora un pochino la sbornia, e ti riconosce. È troppo cioccolata. E viene da te e ti dice: zio Atanas, che bello che sei qui. Zio Atanas, cosa sta succedendo? Io oddio, perché esatto. Io... Io non zio, cazzo. Il dolcetto che mi hai dato era buonissimo, ce n'hai degli altri? Ti prego, zio. Può essere, ma dobbiamo andare ad ammazzare le streghe che abitano lì fuori dal villaggio. Se li uccidi, però poi non ne è più. Vabbè, allora dobbiamo schiavizzare le streghe. Buona osservazione. Brava. Tipo, sai le scene di un film quando 30 anni dopo lui alla fine è ancora a fare quella cosa? No, sai quando i film vengono spiegati il dopo? Cioè, esatto. Avvia un'attività nel settore. E va alla grande. Imprenditore della ristorazione. Beh, imprenditore con le creazioni. Avevi detto le bestie, i pipistrelli, i lupi e i lupi crudeli. Perdono il loro collegamento sovrannaturale con Strad e diventano bestie ordinarie. Okay. Cioè, hai fatto solo del male, capite? Persino gli animali ora sono nerfati. Un disastro. Ismerk. Ok, Ismerk era morto, esatto. Beh, comunque, giusto per dirti il pensiero generale del mio personaggio alla fine di questa. Sì, tutto questo. Garrosh, cosa pensi? Vabbè, vediamo un po' cosa farne della gente di Barovia, ma mi interessa relativamente. Mm-hmm. Finalmente siamo liberi. Io tornerò dalla mia gente, dal mio clan, dalla mia gente. Do stasera un po' di cose da fare, Las. tornerò spocchioso. Guarda, non sai che agenda fitto io nei prossimi giorni. Io tornerò dalla mia gente convinto di redimermi con questa storia e con la lancia a prova di questa storia. Prova di questo, bene. Allora, secondo me, se tu fossi stato a casa tua, sì, avresti avuto l'agenda fitta. Ma lì purtroppo. Vabbè, dai, ho l'iPad. Streaming. Ok. Sfortuna, le tue aspirazioni per il futuro? Come ho detto, andare a rubare libri nella foresta. Ok. Andare all'anagrafe e togliere la S. La mia vita è cambiata. Rubare libri e vecchietti. Possibilmente chiedendo l'aiuto di Race disponibile. Ah, Race, le tue, i tuoi piani per il futuro? Ah, io in realtà non ho un cazzo, nel senso che sono arrivato qua che era un ragazzetto di merda, quindi potrei anche accettare sta cazzata. Ma state due settimane, sono ancora un ragazzetto di merda. Sì, esatto, cioè nel senso che sono arrivato qua che era un ragazzino del cazzo. Adesso sei un ragazzino del cazzo con una spada laser, è come Star Wars. Chiaro. Puoi fondare la tua accademia. Dei ladri Jedi. Esatto. Bello. Ok, adesso il personaggio di cui temo di più la risposta. Atanas, quali sono i tuoi progetti? Io per ultimo diventare un vampiro. Strad non c'è più, quindi ecco. Io mi sono trovato bene a Barovia, cioè. Ok. Tra l'altro adesso ho ben due pietre da distruggere e sniffare. Nuova campagna, la maledizione di Catta 2, dove il nuovo strada è Giulio. La maledizione di Bosi. La maledizione di Bosi. Assolutamente, gliela facciamo scrivere e poi così qualcuno la potrà giocare, per sbaglio. Tutto. Ma in allora, teoria è così che doveva finire. Infatti voglio vedere. Ne scriviamo una in cui siamo tutti master. Vabbè, Atanas ci può ancora pensare. Adesso vediamo che cosa succede. Io nell'immediato, dopo che mi sono assicurato che Radi sia stato decapitato, la bambina stia bene, Radi sia stato decapitato, e gli getto la testa agli altri elfi. Così. Agli altri elfi. Agli altri elfi. No, vabbè, se la lanci saranno gli altri elfi a prenderla. No. Il più alto la prenderà. Apprezzano il tuo dono. E poi vabbè, aiuto ormai, tanto Varistran lo aiuterò in quello che vuole fare per il momento. Okay. Faccio quello che fa Varistran. Immagino tipo io, tipo Bilbo alla fine. Sono pronto per un'altra avventura. Ma sì. Okay. Poi non so, a un certo punto se verrà il momento dei commiati vedremo, perché magari io resto a Barovia. Va bene. Quella di Giulia e di Atanas è psicologia inversa, sta bullando Veth Vardistran in maniera alternativa. Sì, faccia quello che vuoi te. In realtà ci sarà un momento in cui si ritorcerà tutto contro. Dai, adesso intanto facciamo la parata lungo Barovia. Ok. La parata mentre le persone si polverizzano per strada. Martinkov, appunto, quando gli dici di evacuare, fa partire i suoi si alzano in volo. Oh cazzo, cazzo, cazzo. Poi torno da te, era questo che intendevi, vero? Fa appunto partire i messaggeri dai quattro angoli della valle per informare che finalmente la maledizione è stata tolta. Prima di andare via, io un brindisi col vino lo farei. Vero, lo champagne. Appunto, anche loro si dividono tra chi vuole andarsene e chi invece decide di restare. Lo stesso Martikov, appunto, fa notare che qualcuno è meglio che rimanga a guardia del potere che è stato racchiuso in questa valle. Anche questo. In particolare quello che voi avete usurpato, che avete trovato nel tempio di Ambra. Che salutiamo. Perché lasciare in balia delle entità malvagie quel luogo sarebbe un grosso errore. E quindi lui dovresti unirti agli altri paladini. Vabbè, lui deciderà quello che vuole fare. Gli altri paladini sono tutti morti. Esatto, cioè figo, lui è a capo di tutti i paladini morti, è figo. Esatto. detto. No, essendo anime che tornavano, mi sa che adesso non tornano più. Quindi proprio In realtà anche loro erano legati alla maledizione di Strahd, quindi è plausibile che non ci siano più. Infatti il messaggero che Ant-Man è andato a Kresk conferma che la maggior parte della popolazione è stata evacuata e che al confine sono presenti praticamente le spoglie mortali di quelli che erano i Revenant, i paladini dell'ordine del Drago d'Argento, che hanno finalmente trovato la pace anche loro. Giunto il momento della rifondazione, la Repubblica Popolare di Barovia. Esatto. Pietro sarà il presidente. Se vuole. Sì, Pietro è tra quelli che rimane. E, anche perché ovviamente ha una certa responsabilità. Allo stesso modo... Bello, mi piace tipo l'elezione di Barovia. Chi vuol fare il presidente? Io? Ah, ok, va bene, fallo tu. Non dovremmo votare? No, ha detto che lo vuol fare lui. Allo stesso modo sono partiti in fretta e furia per paura che l'ira dei baroviani possa avere delle nefaste conseguenze contro di loro, i vistani hanno lasciato fanno i bagagli, la povera bambina lì da sola. No, dico tutti i vari insediamenti e molti di quelli che erano nel castello, ma anche negli altri campi nomadi in giro per Barovia, prendono su e scappano a gambe levate. I baroviani sono felici di vederli andare via. E lei insieme a suo padre invece rimangono qui. Suo zio invece no, se ne va. Devo vedere se devo uccidere suo zio, aspetta che controllo i fogli. Era Regal. Dai, tu continua, poi te lo faccio sapere se devo ucciderlo. Ok. Chi è Regal? Lo zio di Arabella. Ma scusami, è vero, ma i vistani no, i vistani devono star qua. No, loro fuggono, a gambe levate. Fuggono. A parte che potevano andarsene anche prima. Ma adesso inizia la grande caccia. È per questo che fuggo. Forza! Okay. No, ho solo segnato che era lo zio della bambina, non ho scritto se volevo ucciderlo. Ma mi sa che dovremmo rinchiudere sti vistani. Quindi se non hai scritto che non lo vuoi uccidere... La bambina cosa pensa di suo zio? Di suo zio o di suo padre? Di suo zio? Sì, poi anche di suo padre. Quanto una Barovia senza vistani ha comunque migliori possibilità. Dice che suo papà, suo zio gli vuole molto bene, ma lo zio a volte è sempre molto burbero e molto schivo, non parla molto, con lei almeno. Faremo parlare, che problema c'è? non si separano le famiglie. Non me ne ero accorto che Marco era in questa cosa. È la nuova Barovia adesso. Perché metà dei capelli, tra l'altro, vengono assorbiti da questo. Se riesco a dare l'ordine a qualcuno di catturarlo prima che scappi, lo faccio. Infatti, anch'io lo sfondo. Non vedi che i capelli sono andati, sono finiti dietro. Bravo, questa non mi è venuta. Bravo. È vero. Ok. Allora, dov'è? Come si fa a mettere il... Ma puoi farlo solo da desktop? Sono. Oggi lo sono. Ah, e allora... Una volta che sei su desktop non mi vedi, fammi capire. Adesso ti vedo, sono uscito orientato dalla chiamata prima. O vai nelle impostazioni oppure direttamente lì dove c'è la webcam. Oppure non fa. Pigi sulla freccettina. Clicchi sulla freccettina. No. Dovrebbe no, apparirti... Fa. Cambia sfondo. No. Cosa triste. Vabbè, non è un problema. Cambia sfondo video, novità. Cos'è questo? Ma non lo dà, che cosa triste. Che cazzo è sta cosa? Sì, non ci sono dei gran sfondi. In realtà potresti caricarne uno tu, però solo se paghi. Beh no, con OBS ti puoi fare il... Okay, senza usare software altri. Vuoi caricare un tuo sfondo? Abbonati. Ok, vabbè, sì, fanno veramente cagare. Ok, sono meglio quelli di Skype a sto punto. Sì, ma questo è una cosa che hanno appena messo, ci staranno ancora lavorando. Ok, arriviamo allora. A Kretz, che è trionfanti, mentre uccidiamo i Vistani, ovviamente, a vista. A Vistani, ok. Ok, quindi fate un po' di pogrom e... No, dipende, qualche... gli Vistani che si... No, vabbè, non c'è tempo, che si inginocchiano. Non riesco a colpire, troppo in basso. Alcuni, ovviamente, accettano il loro... l'autorità del... saranno ben accetti nel nuovo regime, cioè. Nuovo regime. La battaglia del castello ha causato le seguenti perdite, in particolare i due coni di freddo di sfortuna e di Strad hanno decimato più o meno tutta la nobiltà baroviana. Ma giusto, dovevamo fare, vabbè, già fatto, perfetto. lavoro in meno. Riconoscete per la ghigliottina le statue di ghiaccio di Lady Vokter, dei suoi figli, e insieme singole a loro statue dei figli si frantumano in mille pezzi. Dico anche ad Arabella, se vuole spingere una statua può farlo. E lei dice ok e si mette a spingere le statue. Bah. Il sidekick di Giulio è diventato. Dopo le ho salvato la vita. È anche drogato. Vabbè. Cioè la vita gli hai salvato tipo 80 puntate al fa. Fine di sì, ma è tipo 10 giorni. Sì. Ma probabilmente è ancora il drogato. Pet. Questo ancora meglio, più esatto. Ti darei un'altra dose se spingo la statua. Tutte quelle che... perché prima è gratis, ma poi così paga. Il bilancio dello scontro lascia sul campo diversi vostri alleati. Oh, tra no. Gli elfi e i corvi e qualche Martinkov da ovest inoltre arriva la vostra amica Zuleika, o meglio la, come si dice, appartenente allo stesso branco, in una parola, non penso esista, ma comunque avete capito. E... No, non ho capito, in che senso? Cosa vuoi dire? Appartenente allo stesso branco? No? Sì, ah, ok. Se avete qualcuno di voi a... Sì, abbiamo liberato è diventato un membro del branco, sì. Esatto. È vero che sono anche il capo del branco adesso. Quante responsabilità. Esatto. Zuleika torna, bambina, il branco e mamma, esatto. Tutta Barovia, vista. Ah, mi sa che me ne vado a Barovia. E dopo che per molti giorni appunto aveva portato il suo branco al di là del confine di Barovia, a caccia in terre lontane, in modo da allontanarlo dal, come dire, renderlo non disponibile a combattere al fianco di Strad, in modo da permettervi di viaggiare più sicuri nelle sue adesso terre. Abbiamo liberato il suo compagno, che esatto, era il capobranco, che era andato, era infatti andato da lei e l'ha informata che la battaglia finale stava venendo combattuta. E questo appunto sono è arrivati stato tardi. Non sapremo mai da che parte, loro, come i Frey sono avrebbero dovuto fare con... ma da che parte avrebbero non lo combattuto? Saprete mai. Sì. Ma questo lei che la ritardataria. Il loro supporto è stato il non farsi trovare in come dire, non concedere loro supporto al vostro nemico, sostanzialmente. Non mettersi davanti al cono di ghiaccio mentre andavo. E Ilia? Ilia, quando scendete di nuovo nel salone. Era tipo in crisi, in preda al panico, perché aveva visto... Esatto. Brasil, che lì come si chiamava, sciogliersi. Lui era andato da lei pensando di liberare Irina. In realtà... praticamente quelle cuciture che la tenevano insieme si sono smembrate, si sono divelte e praticamente all'interno dei suoi pezzi erano state incise, lo vedete anche perché è esattamente nello stesso stato con cui l'avete lasciato, ovvero uno stato catatonico di completo, come dire, quasi ipnotismo nei confronti di queste membra, perché praticamente è una specie di ordigno magico che era stato predisposto per chiunque avesse cercato di interrompere il rituale, e vedete che da qualche metro di distanza l'interno delle membra di Vasilka era stato riempito da rune magiche che adesso si vedono luminose e che stanno, come dire, tenendo in questa stasi il povero malcapitato. Mando due persone a prendere Ilia, rimangono paralizzate. Non trovi dei volontari per fare questa cosa, nessuno si vuole avvicinare. Neanche se l'alternativa è che li ammazzi. Potrebbe essere... Volontari cosa vuol dire? Lentamente, molto lentamente. Non volevo tirare dei dadi oggi, vabbè. Posso fare un intimidire? Intimidisci un popolano. Lui si avvicina un pochino e prova, insomma, tu che cosa gli dici di fare? Di trascinare via Ilia. Ok. Si avvicina di qualche passo e... lo può prendere anche tipo dalle ali e tirarlo. Cioè, sì, va lì per prendere un pezzo di Angelo. E dopo qualche passo, appunto, che si avvicina a lui, si ferma e poi cade stecchito. Interessante. Ok. Sfortuna, tu che sai l'arcano, cos'è? No, scusate, mi sono perso. Chi è stecchito? Ilia. Un tizio a caso che aveva detto di avvicinarsi a lui. Atenas sta uccidendo dei contadini. No, non sono stato io che l'ha ucciso. Gli ho detto di avvicinarsi a un angelo bloccato davanti a un corpo smembrato. Ah, ok. Beh. Cioè lui è lì e le uccide Ilia. Cioè Ilia sta uccidendo le nostre persone. No, Ilia è tipo paralizzato, bloccato davanti al corpo mezzo smembrato di Vasilka, che è pieno di rune. Sì. E quindi a qualche parte c'è qualche magia che chi si avvicina o muore, o se è abbastanza forte non muore ma rimane paralizzato. Tipo. Ok, sì. Sfortuna. Anche perché io non ho più niente. Che dire, che sfiga. Okay, no, grazie. Vabbè, religioni. Grazie all'aiuto. Religion. Not over. 16 più 4, 20, religion. Sono delle... È un, tutta una serie di glifi e trappole magiche. Riconosce alcune maledizioni della tua religione che sono state tutte messe lì in mezzo ai pezzi del cadavere di Vasilka. E so benissimo chi è stato. Forse. Il folle abate. L'avete ucciso. E io l'ho detto che era folle. 50 sessioni fa. Faccio un'investigation allora. La sua follia si è riverberata su di noi. In teoria 20. Lui doveva usarla come bomba contro strade, no? No, aspetta, non 20, 21. No, lì, poi dopo si era di strade, quindi doveva... Esatto, l'investigation di sfortuna gli suggerisce che la golem non aveva queste rune quando era stata già prima... smembrata nella lotta contro i golem del tempio e quindi successivamente qualcuno è andato lì, ha preso i suoi pezzi, l'ha tramutata in una specie di bomba di ordigno a orologeria arcano e l'ha messa lì per fare un trappolone a chi avesse provato a interrompere la sua cerimonia. Se prendo delle corde, le lancio e tiro Ilia. Tipo un lazzo. Sì, magari funzionano tipo da... conduttore. Da conduttore. Non so, lo faccio fare a due popolari. Non trovi più alcun volontario. Sono in un'altra stanza, sono corte di 20 metri, cioè dai, non vedo neanche. Dico, tirate, prendete le corde e tirate. Va bene, si mettono lì a tirare finché non lo prendono. Ci mettono qualche giorno. Intanto andiamo avanti. Non c'è così tanto. È molto lontano, è molto difficile fare un tiro del genere. No, vabbè, aspetta. Scusa. Tu metti una corda lì vicino e prendi due capi, allora lo prendono e rimane in mezzo. Vabbè, ma non si esaurisce sta magia, rimane così. Chi lo sa? Vabbè, ci penseremo. Al massimo lo ammazzo, non è un problema. Cioè, che poi tanto sto facendo tutto questo perché alla fine lo voglio uccidere, cioè, questo discorso. È un problema grosso questa cosa. Poi, appunto, vi stavo dicendo, Zuleika e il suo compagno tornano e digiurano fedeltà e periodo. Hai trovato i tuoi popolari, Giulio. Ne hai fatto due volontari. Ottima scelta, ottima scelta di tempo. Avete vinto. Un ottimo compito. Oddio, non sarà modo per farle. E lei e il suo branco dice cacceranno in territori lontani da questa valle e non daranno più fastidio ai suoi abitanti. È il momento della caccia ai vistani. A meno che qualcuno di loro non voglia occhiolini. Aggiungersi al loro branco. Beh, questo lo vedremo, perché il capobranco sono io e deciderò io. E diciamo quindi... che terrò in considerazione la proposta. E quindi Ilia lo teniamo. Si può provare a tirare a Ilia un sasso. Posso tirare una freccia. Collegato una corda e poi tiriamo la corda. Si farà male probabilmente, però vabbè. Cioè, la sensazione è che il lazzo eventualmente possa avere questo effetto di conduttore, mi sembra strano. Chi lo sa? Lo provate? Noi abbiamo ancora le cose dei patti degli oscuri, i malus caratteriali, il malus di carattere. Certo. Sì. Allora sfido Garrosh e dico: per me non sei abbastanza forte per far volare via quel tizio lì con una pietra. In realtà potrebbe anche non interessarti, però tutto sommato è divertente. Non lo so, sono combattuto e non so se essere totalmente non me ne frega un cazzo, ma sì, dai, lo facciamo. Che cosa vuoi fare? Lui mi ha sfidato, non lo so, io non so cosa vuole fare lui a me, semplicemente mi ha sfidato. Chi ti ha sfidato? Permetto? Fortuna. Ha detto che per me non è abbastanza forte per far volare via l'angelo con una pietra, lanciandogli una pietra contro. Sì, ci provo, tanto per... Faccio una prova di forza? Sì. Oddio. In ira, ovviamente. E ho fatto... Come? In ira, ovviamente. No, ho fatto critico, ho fatto 20 naturale, giuro, quindi sarebbe un 24, vedi tu come interpretarlo. Questo dato non l'avevo mai fatto critico, che bello, è la prima volta. È utile. Wow. È l'unico che ha un simbolo al posto del 20, è la prima volta che lo vedo in alto. L'hai usato. Eh? Puoi buttarlo, l'hai usato. Arriva adesso. Lo metto via. Dove cazzo è finito Ilia? Scusate, ho avuto un attimo un momento nostalgia, ho ripercorso tutti i meme e le stronzate velocemente della maledizione di Katta, ce n'è tante. Il mio preferito rimane la foto di Giulio e Katta in bianco e nero, e così gli ho promesso un'altra arma magica, tipo una roba di... rimane un lavoro. Sì, hai successo. La pietra investe in pieno il povero malcapitato e lo scaglia a qualche metro di distanza. Visto, ce l'ho fatta. E lui giace immobile per terra. Poi torno a farmi i cazzi miei. C'era giusto proprio per fargli vedere, guarda che sono in grado. A me non mi interessa. Lancio una freccia incendiaria al cadavere di Vasilke. Quale dei pezzi del cadavere di Vasilke? È quello centrale più grosso. È un po' che non brucio cose, ragazzi. È vero, è un po' che non brucio cose. Sarebbe meglio puntare i capelli, magari è più facile che prendano fuoco. Buttiamo nella stanza dell'olio. Poi scusa, se buttiamo, se creiamo una barriera tra il... Dov'è? Lo si vede nella mappa? Sì. È nell'altro piano. La freccia incendia la parte che hai colpito e l'aria si riempie di un tanfo insopportabile. Carne bruciata, odore di grigliata sostanzialmente. Le persone intorno cominciano a tossire visibilmente e si allontanano il più possibile. Apriamo le finestre. Sono le finestre. Sono aperte. Anzi, erano state sfondate dai pipistrelli. Attenzione, esatto. Che poi Giulio si arrampica con le finestre. Wow, che casino. Stato di ghiaccio, pipistrelli. Sì, è lì dall'altare. Esatto. Quella è l'altare, giusto? Mm-hmm. Cosa c'è sopra l'altare? Sopra l'altare c'erano tutti gli addobbi per la cerimonia, delle coppe dorate, e cioè, del vino di un colore sospetto. E cos'altro c'è di solito? No, bisognerebbe far crollare quella parte davanti a lei o sopra di lei. Però è difficile. Vabbè, ma scusa, Ildi è stato sbalzato un paio di metri, abbiamo detto. E? Proviamo a recuperarlo adesso, che è un paio di metri più distante. Ok. Chi si avvicina? Ah, cazzo, perché era quella. Avvicino un po' attaccato. E uso una corda. Ok. Non so, se collato è troppo complicato, va bene anche una corda con tipo uno spuncione, un coso che si incastri da qualche parte nella carne. Tanto non è... Esatto, non è che mi interessi particolarmente lì. Dici quella di Ilia? Sì. Ok. Allora. Che si conficchi nelle carte. Sì, non mi interessa certo Vasilka, cioè ormai quello è andato. Se invece sbalzavamo lei? No, forse non era buono. Qua. Insomma, magari disperdiamo le rune. Allora. No, non è qui. Dove cazzo sta? Qua. X24. Ok. Wisdom saving throw. Yuhu. Quattro. Ah, però c'è Vez vicino, forse. Sì. Sette. C'è Vez vicino. Tipo Galung. Ok. Un altro arpione tira Vez verso di sé per avere il più... Tiri salvezza. No, basta. Allora. Entro 10 piedi. Ok, cadi in uno stato catatonico anche tu. Sì. Rimani completamente immobile. Ok. Top. Vabbè, Gresham qua, ciao. Nel frattempo. Ok. Ma questo perché ha preso col rampino Ilia? Lo avete visto che ha fatto qualche passo nella sua direzione. Ha provato da... o ad arpionarlo, o lanciargli una corda, fare qualcosa. No, la corda in mano. Cioè, mi è rimasta in mano. Sì. È terribile. Questa cosa. Tagliate la corda. Ah, se tiriamo lui, riusciamo. Se la corda, se tiriamo il trenino. Lui. Il trenino. Cioè, in questo momento il rampino tocca Ilia. Sì. Si è agganciato. Non lo sai. Tiriamo Giulio e tiriamo. Che la situa è un po' brutta. No, adesso è rimasto due magie di terzo livello. Tagliamo. A chi? A te? Per Giulio tagliamo la corda. È un bel dispel magic, non ce l'hai? Riga, no, palla di fuoco. Ha detto Giulio. Oddio, vai, palla di fuoco. Scusami, sì. Non ce l'hai di spell magic? Tu ce l'hai di solito? No, counter spell. Ah, cazzo. Io non ce l'ho più. Ma tu verso non puoi averla, no? Perché siamo a livello troppo basso. No, io ce l'ho, ma non ho più l'incantesimo. Finito l'incantesimo. Io da uno. Beh, basta riposarci, rega. Se volete tagliate la corda, se no... Scusate, non possiamo rifare un riposo lungo? Rimaniamo così. Cioè, mi se dobbiamo muoverci, dobbiamo andarci in realtà. Giulio ha già cominciato. Il suo riposo potrebbe essere molto lungo. Ha ragione. Raga, non potevamo lasciarlo così e andarcene. Sì, forse dovevamo. Eh. Intendi Giulio? Oh no, non è l'ultima sessione alla fine. No, la maledizione. No, maledizione. Cazzo, non devi metterci niente, tu devi dire the end. Ah, rega, facciamo il trenino sul serio. Solo che se lo fallisco io, sono brutte che sono su cazzi amari. Dopo non mi darei anche il più tre. Beh, sì, sei vivo, è solo stato catatonico. Dipende se deve essere conscio o meno. Ah, scusate, allora lui è arrivato lì, ha toccato la corda e se... Cioè, con la corda ha toccato... Quando pare, questo... quando il rampino ha toccato Ilia, sono diventato... Però se è il rampino che tocca Ilia, poi tocca Giulio, qualcuno tocca Giulio, non so se... Tagliate la corda. Proviamo a tagliare la corda. Quanto è facile tagliare la corda con una freccia, tipo un quadrello? Dai, ci sta. Però... Proviamo. Sta cacata, non sono solo Guglielmo tempo, mi interrompo. O con un giavellotto. Puoi provare. O con un'ascia di scemo. Volendo io un'accetta. Che... Dai, proviamo l'accetta. Ecco, in realtà, sì. Non so, perché non tutte e tre insieme? Esatto. In termini di gioco, vai. Non so come... Vai, mettiamoci lì a fare il tiro. Con un bel fumble beccate Atanas in mezzo. Siamo pronti? Sì, allora volentieri. No, ho tirato io. Partiamo. Ho fatto 16 più... Cos'è? Destrezza. 9. Sì. Quindi 25. 25. Quindi colpisci la corda. E non si taglia? Sì. E? Ok. La corda quindi cade a terra, però lui è ancora catatonico. Sì. Immagino di sì, perché l'effetto l'ho ricevuto. Vabbè, proviamo a spostarlo, proviamo, okay, a dargli un ceffone seriamente in senso buono, cioè proviamo a... Beh, io mi avvicino e provo a spostarlo. Bene, tiro salvezza sulla wisdom. Più tre. Oh, cazzo. Quindi catatonici abbracciati, bellissimo. Rega, abbraccio di gruppo. Finisce così la maledizione di gatta. Noi abbracciati. 15 più 3 l'hai preso? Sì. Ok, vedi che il tuo amico Giulio è molto molto affascinante, quindi ti fermi lì ad osservarlo. Il tuo amico Atanas. Cazzo. Allora, lui sta toccando Atanas. Sì. No, lo sto toccando? Con una mano? Sì, hai detto vado lì e provo a spostarlo. No, era, la mia domanda era questa, mi fermo toccandolo, mi fermo prima, era questo. No, l'hai toccato. Tagliamo la mano. La corda funziona. Colpiamo la mano. No, quella corda non ha funzionato. Esatto, quello è il punto. Giulia è ancora lì. Ah, hai ragione. Giusto. Valenti, più possiamo tagliare la mano per vedere se funziona. Sta diventando quasi imbarazzante. Il degno finale per una per la nostra campagna. Esatto. Cazzo. Lo so. Cioè, ops, potevo usare un bless. Beh, e saluto, blessi. Bene. Aspetta, posso farlo anche su di me? Bless, direi. Solo che il problema è. Ma tu, Marco, quanto hai saggezza invece? No, tu sei, cosa sei forte? Sì, carino. Lo puoi fare anche su di te. Beh, scusa, lo fa Arci, che è lì con noi, cioè, qualcosa utile che fa, viene e sposta le persone, cioè. Dai, va bene, provo io, mi faccio anche bless, però. Così tiro un D4. Okay. Aspetta, però dopo la concentrazione chissà se la mantengo. Beh, finisce solo se becchi danni, la concentrazione. Allora... Gli do guidance, dai. Up to 3 creatures, quindi me, Sceo e Mark. Ok. Aggiungeremo un D4. E che me ne faccio? Boh, spero che tu, nel caso, venga anche tu. Guidance cosa mi fa? E ti dà guidance. Un D4 o un'abilità. Un ability check. Ma questo è un saving throw. Allora è inutile, però te lo do lo stesso per darti un po' di sparkly. Allora uso solo il mio D4 in più, più il mio più 3. Ok, ragazzi. L'acqua di gemma all'intervallo. Vedi questa, sarai più forte. È il momento della verità. Allora, è un più 3. Allora, ho un 12 più 4. Devo darti inspiration, però no. 19 più tiro il D4, che sono 2, 21. Ok, cosa volevi fare, scusa, in tutto questo? Fare un tiro alto. Va bene. andare lì e portarne via uno, almeno. Okay. O due, in questo caso, portiamo via due. Va bene. Prendi Atanas e Race. E li porto via. E li porti via, e li trascini, sì. Si risvegliano? No. Bene, però almeno ce li abbiamo. Ok, vabbè, Ilia è perduto. Bisogna fare delle scelte dure. In questo momento non abbiamo tempo. Se riusciremo, torneremo indietro ad aiutarlo. Ma ora non possiamo fare altro. Prepariamo i cavalli, mettiamoci sopra. Ma sono bloccati a guardare il vuoto o qualcosa? Ah no, provo a fargli un... Che gli posso fare? Boh, prova a dargli due schiaffi. Non noti miglioramenti. Beh, gliene do altri 4, sa mai. No, vabbè. Provi una certa soddisfazione, ma, ma non succede. È tutta la campagna che aspetta questa. Provo ancora ferite su Atanas. Le sue ferite si rimarginano. Provo, mi infliggi ferite adesso. Ti faccio 7 più il mio livello, com'era pure? No. Vabbè. Qualcuno faccia un'arcana per capire cos'è questo effetto. Dirò una cosa stupida, ma magari se ci fai danno dobbiamo fare un altro tiro salvezza. Cheers. È un D8 più la tua tuo modificatore di abilità. Che è il carisma. No. Sì. Penso di sì. Più 3. Quindi 10 danni, 10 punti ferita, Giulio. Vabbè, in questo momento non siamo in grado di fare nulla. Anche mi do guida e faccio un'arcana per vedere se ho una spiegazione. Ok, cosa hai fatto? 17 di arcana più 3 di guida. 20. Ok. Sono sotto l'effetto di un potente incantesimo che era iscritto in quelle rune. E so mica se l'incantesimo è l'incantesimo dalle rune. Come? Non ho capito. Se posso distruggere l'incantesimo distruggendo le rune o qualcosa. Distruggendo le rune, ammesso che ci siano solo quelle rune in quel quacervo di parti di corpo e di e magia arcana, distruggeresti la fonte di magia che stava soltanto lì in quelle membre. Rimane ancora quella che è stata, come dire, passata attraverso il contatto dagli altri contagiati, chiamiamoli così, e dai positivi. Ragazzi, dobbiamo preparare un rogo e li bruciamo. Come, scusa? Cioè, dobbiamo spurgarli da questa energia. No, adesso non sono più, cioè... Hanno un residuo magico interno, si dice. Sì, ma una volta distrutti... La carica virale. Esatto, questo comunque non ha nulla quello che è già addosso a quelli che l'hanno preso. Capito? Sarà un incantesimo. Hai fatto 20, Marco, in arcana. Che incantesimo è? L'incantesimo. Esiste un incantesimo così? Beh, non proprio così, ma l'effetto la maledizione. È simile, sì. La scuola è quella dell'enchantment e l'effetto è simile a quello di antipatia-simpatia. Mi sembra una roba più pesante di antipatia-simpatia. Beh, è un incantesimo dell'ottavo. Era quello che avete visto nella statua del tempio che attirava gli ignari avventori e li lasciava lì fino a che non morivano di stenti. Però lì abbiamo distrutto la statua. Lì avete distrutto la statua. Questo è un po' diverso. E va bene. Vabbè, io me ne torno alla mia missione nelle foreste. Ok, quindi prendete i Vardistran, prende i due corpi e li porta via, i due cadaveri e i due... I due cadaveri, ecco. E dove li mette? Su un carretto li metteremo. Ok, e poi il carretto? Ma perché non vai dal Tempio d'Ambra con il teletrasporto per chiedere a Lich? Perché il carretto, se tocca un cavallo, si paralizza il cavallo? Non lo so, hai già attaccato il cavallo al carretto. Attacchiamo un cavallo al carretto. No, dai, non ci credo. No, questo è Kat che sta trollando. Ho visto Kat aprire gli occhi, questa è una trollata. Questa è Kat che sta trollando. Ha pensato, no, ma adesso devo fare una sessione, non ho abbastanza iscrizioni. Mettiamo cose a caso. Esatto. Il carretto è a posto per due cavalli. Uno si paralizza, l'altro no. Al posto dell'altro ci metti Atanas. Togliamo un cavallo, proviamo con un altro cavallo. Quel povero cavallo lo lasci là così. Sì. Lo cado per sempre. Tipo, lo ricopriranno di pietra e ne faranno una statua. Rimarrà lì fermo per sempre. Si paralizza anche il terzo. Non ci sono più cavalli. A parte i nostri, sono stati rubati dai Vistani in fuga. Bastardi, no, è vero. Spostiamoli. Te l'hanno lasciato su quattro mattoni. Spostiamoli sul carretto da uno. Dobbiamo stare tutti su questo cazzo di coso. No, allora, evoca l'alce. Non ce l'ho il coso per evocare l'alce. Allora. Perché a cosa ti serve? Il problema è che la cosa migliore era attaccarci a Arci in modalità tirannosauro. Arci fa un dispel magic, tanto non ha fatto un cazzo, ha solo slot di incantesimi disponibili, quindi le fa finché non lo dispella. E funziona così. È vero anche questo. Mi sembra la cosa migliore. Peccato, mi stavo divertendo. No, dai, ti prego, resisti. No, vabbè. Non l'avranno vinto. È andata abbastanza per le lunghe. Tipo è solo una trollata. Cioè. Peccato, era divertente. E va bene, Arci usa tutti... il secondo cavallo. Beh, dovrebbe usa comunque tirare alto, slot. Perché sei ottavo. Infatti usa tutti i suoi slot e alla fine riesce a... risvegliarvi. Tutti i suoi slot, il che vuol dire, ragazzi, non lo potete più usare. Certo, no, perché non potete più usare. E che può domani. Farlo anche su Ilia, però. Ha finito tutti i suoi slot. Non chi se ne frega di Ilia, ormai sta lì. Va bene, andiamo. Ilia entra. Anche perché Ilia sarà il nuovo Strad, quindi. Va bene, andiamo. Okay, quindi carichi tutti su un carretto. E adesso Arci, però le forme selvatiche ce le ha, però. Sì. e quindi diventa un cazzo di anchilosauro e ci traina. Ok. Insieme all'altro cavallo che ci segue. Il cavallo fa da spuntino per l'anchilosauro, se a metà strada gli viene fame. No, vabbè, io vado, sul io vado sul cavallo e voi state sul carretto trainato dall'anchilosauro. Io intanto grido strade. Stiamo andando a Kresk. Sì, grido per le strade. Strade è morto, fuggite. Mettetevi in salvo. Okay. Strade bene, è morto, il signore oscuro è stato sconfitto. Ok, vai a scampanellare. È libera, fuggite. Per le strade. Fuggite ora che è libera. Uso illusione minore per fargli arrivare una bacinella d'acqua addosso. Da sotto una finestra. Immagino che uno siamo nel bosco. Folli. Appunto, non materializzi c'è... una finestra con nel bosco non ci sono servizi igienici, la gente i suoi bisogni li buttava per strada. Allora, strada li buttava, adesso non può più. Ok. E, mentre siete per la strada, vedete un bagliore all'orizzonte. Attraverso la bruma di questo mattino, del primo mattino dopo tanto tempo che illumina questa terra, percepite una sensazione di riposo e di pace dalla valle, la prima da quando ve lo possiate ricordare. Prima, da ben 2 settimane. Una luce risplende dietro di voi. Vedete un uomo, alto, robusto, in carne ed ossa, in un'armatura splendente e attornato da un mantello che garisce al vento. Il suo aspetto suggerisce una grande forza d'animo, ma questa forza è comunque temperata da un fare calmo e degli occhi tristi. Il suo aspetto ricorda quello di Strad, ma leggermente differente. La sua voce è calma e pacifica. Dice: il mio nome è Sergei Vonzarovich. Si rivolge poi a Irina. Tatiana, è arrivato il tempo di riposare. Vieni a me, mio amore e moglie. E allunga la sua mano. Oh, è il mio momento di nuovo. È solo un'illusione. Block. Ecco che... Esatto. Just in dopo che la... Per la seconda volta, dopo che l'hai cock bloccato. Ricordati che prima. C'è un'alternativa, eh? Io dico, dico per... Non è morta l'alternativa, ha i suoi pregi. Gli occhi di Irina, prima socchiusi in un'espressione di incredulità e di stupore, si aprono improvvisamente dopo averlo riconosciuto. Che stupendo si fa così. Esatto. E memorie dimenticate accorrono alla sua mente. Sergei urla. Sergei, non mi ricordo mai come si pronuncia. Sbaglia anche il nome. Esatto, aia. E corre a lui con la grazia di una colomba. Abbattete. Loro si abbracciano. Irina si rivolge poi a voi e dice: io sono Irina Colliana, ma nel passato ero stata Tatiana, l'amata compagna di Sergei. Chi l'avrebbe mai detto? Attraverso tutti questi secoli abbiamo recitato in questa tragedia delle nostre vite. Adesso però, con la mia più grande, più profonda gratitudine nei vostri confronti, questa tragedia è finita. È tempo per noi di diventare di nuovo felici. Una luce accecante circonda Irina e Sergei. Mano nella mano camminano verso est, fino all'orizzonte. I loro piedi non toccano il terreno e si incamminano in un sentiero al di là del mondo mortale. È stato appena ucciso una persona, ma... Quindi tengo l'armatura e dopo... La loro strada invisibile li porta al di là del precipizio a est. E là dove la loro luce non potrà servire. Esatto. La loro luce la tengo. Si perde nelle distanti nuvole sopra Barovia. Le nuvole all'improvviso si aprono, lasciando passare un glorioso raggio di sole. Nella valle sottostante, uno solo, la nebbia si dissolve e Barovia è libera. Oh, e così ce la siamo tolta dal... volevo dire... Va bene. Quindi... Adesso cinematica. Di livello. Cinematica. Arrivate a... Prima di arrivare a Kretsk volete fare un passaggio al vecchio mulino. Cazzo, è vero, sono le streghe da ammazzare. No. No. Vabbè, però, lo farò io quando sarà il nuovo signore di Barovia, visto che rimarrò a Barovia. No, quello è la gente di Kretsk e via. È già scappato la prima volta, Giulio, vuoi scappare forse di nuovo? Ah, Martinkov gli avevo detto di andare a avvisare anche a Vallacchi, ovviamente. Beh, adesso sì. Però tipo 8 livelli in più. Ma chi... sono altre Martinkov cose... ha mandato messaggi. Non sai loro insediamenti conosciuti. Però un branco di lupi mannari. Ma alla fine che insediamenti abbiamo visto? Vallacchi, Kretsk. Vado a prendere la mappa. Il villaggio di Barovia. Il villaggio esatto. Ah, non ci sono i nomi qua, se ci sono. Sì. Mm-hmm. Basta. Esatto, questi sono gli insediamenti maggiori. E poi vabbè, c'erano gli insediamenti dei Vistani, c'era la vineria del mago e poi chiaramente nelle foreste ci saranno gli insediamenti delle tribù barbare delle foreste dei monti. Sì, ma non ci sono altre città. E no, città nel vero senso della parola no, l'altra che c'era era quella che è stata sprofondata nelle paludi, come cazzo si chiamava? Vabbè, non importa. Lo so, rega, a me già manca Barovia, cioè io già Beh, una settimana che qua a Bologna stiamo vivendo una situazione simile. Sì, è vero. Non è che poi nel resto d'Italia sia diverso. Bene. Non sai, parlo per qua. No, per la nebbia. La nebbia. Di appunto, non è che nel resto d'Italia sia diverso. Sicilia fa nel bagno. In Cina. Sicilia. Cina. Sicilia. Ma tu l'hai visto le foto che hai messo? Fighe. Arrivata a Kretsk. Aspetta un momento ad accogliervi. Vai, diamo fuoco a Kretsk. Di nuovo. Forse l'ultimo discorso glorioso di Vardistran. Ad accogliervi rimangono Pietro e pochi altri che hanno deciso di restare. La maggior parte sono andati verso ovest con i Revenant prima che svanissero. Si trovano ancora i loro resti vicini al confine e si sono spenti in segno, inginocchiati, appoggiati alle loro spade e in una posa di preghiera, mentre hanno raggiunto finalmente l'aldilà. E Pietro vi accoglie, appunto, vi dice, vi ringrazia, dice: avete liberato. Pietro, la mia gente. Non essere folle, non restare qui solo per l'illusione del potere. Queste terre ora hanno recuperato la loro libertà, ma purtroppo durerà poco, perché il destino di Barovia è sempre oscuro. Ma abbiamo un'occasione ora, l'occasione di rifarci una vita al di là di questa terra. Seguici e sarai libero anche tu. Saggio Vardistran, le tue parole sono di grande conforto. Ci avete ridato la pace che io non avevo mai conosciuto nei miei brevi anni di vita. Puoi sapere che vi abbiamo ridato la pace? Gliel'ha appena detto lui. Tu dici, magari ti abbiamo portato una guerra peggiore. Esatto. Va bene. Esatto, Sì. Chiunque sia volenteroso di andare è già partito. Io ho deciso di rimanere qua, non per desiderio di potere, ma per un semplice sentimento di responsabilità che mi lega a questo luogo e al fardello che ho deciso di assumermi. Ma sei la nostra creatura, lo stai dicendo? Aspetta, dov'è che si spegne e riavvia sto cosa? Che cazzo dici? Ho preso per l'orecchio, vieni, va! In qualità di di borgomastro veglierò e proteggerò coloro che hanno deciso di restare nella città. Va bene, questo ti fa molto onore. Sembra quasi una persona vera. Esatto, questo discorso molto... Va bene, questo ti fa molto onore, Pietro. Spero che tu riesca a portare a compimento i tuoi sentimenti, il tuo obiettivo. E ora però noi dobbiamo salutare questa terra. È tempo. Posso chiedere a Pietro se sa mica, se ha incontrato un vecchietto mentre evacuava con un libro? Non ho capito. Ti ha incontrato un vecchietto con un libro mentre evacuavano? E ci penso un attimo e dice: effettivamente ho visto un vecchietto, è venuto qui a Kretsk la scorsa notte in cerca di rifugio, l'ho fatto alloggiare alla locanda. Bene, l'avete anche arrestato? No, non ha fatto nulla di male. Vecchio. Vardistan, ti dispiace se vado con le guardie? È una persona molto pericolosa. Ma chi è questo? Era con Strad. O solo questo. Vuoi che veniamo con te? Magari. Sarebbe d'aiuto. Sì, però dobbiamo fare in fretta. Anche noi dobbiamo abbandonare questa terra. Va bene, andiamo a vedere sto vecchietto. Arrivata alla locanda. Entrate dentro. Al balcone, mentre sta sorseggiando qualche cosa, da un grosso boccale, questa figura, a quanto familiare, vi accoglie con le seguenti parole: chi non muore si rivede. È il vostro caro amico Van Richten. Oh, Van Richten, lo stavo per dire, ma pensavo fosse ormai morto. Van Richten! Anche... No, e invece sono vivo, ma non grazie a voi. Ma che cazzo vuole? Però noi abbiamo ammazzato Strad. Vabbè, allora ammazziamolo, che devo... Infatti, ho notato... Non avrei mai scommesso un soldo di calcio sul vostro successo. Sì, lo vedete molto più scontroso. Che fine ha fatto la Come era simpatico, cazzo si chiama? Io ci era un mio alleato. Esmeralda. Esmeralda. Tocchi un tasto dolente. Esmeralda. La migliore amica di Vezza. Esatto. 30 secondi. La testa di cazzo. Loro erano i miei alleati. Che cazzo è successo adesso? Forse Esmeralda non c'è perché poi è stata parlata da voi. Ci sta. Giusto. Dice molto scontroso e scorbutico. Sparita, esplosa, morta. Se n'è andata per salvarmi da quel branco. Ha detto quattro cose diverse. Sparita, esplosa, morta. Tutti abbiamo dovuto sacrificare qualcosa o qualcuno in questa guerra. Spiace. Ora non è però il momento di rimanere qui a piangere sul sangue versato, purtroppo. Dobbiamo abbandonare Barovia, se vogliamo avere esatto, una è il momento di ballare sul sangue versato. Vieni con noi, fino al confine. Hai ragione, Vardistra. L'importante è che questo incubo sia finito. Oh, adesso lo riconosco. Ho incontrato qualcuno nei boschi. Potrebbe darci un passaggio. E chi è costui? Vagava in preda a un brutto caso di Covid? No, schizofrenia. E, aveva perso il senno. L'ho risalito un pochino. Sì, sembra uno che sa il fatto suo. Venite con me. Mentre andiamo mi avvicino a Reis e gli chiedo se potrebbe rubare un oggetto che mi servirebbe da questo individuo. Per favore. Quindi, ma quello è lo stronzo che ci ha buttato i fulmini, ci ha sparato i fulmini l'altra volta. È lui. Okay. Allora gli rubo anche le mutande. Esatto, sì. Allora, dove cazzo stava? Hai capito, tirati i dadi. No, volevo solo leggere la descrizione. Ma non mi ricordo in che capitolo era. Puoi non leggerla una descrizione. Esatto. Mi fido, dimmi solo dov'è sto cazzo di libro. Come se l'avessi ascoltata, guarda. Mi fido. Non era qua. Oh, control F. Dai, cadere che sto finendo i fazzoletti. Oddio. Aia. Che cosa è? 2. È Covid. Davvero o per scherzo? No, davvero. Voi siete connessi. Arrivati dopo, sì. Ah, veramente? Sì. Ah, cazzo. State bene, però. Era freddore. Comunque questo è il momento migliore in realtà per voi. Non siete ufficialmente positivi o sì? Sì, siamo ufficialmente positivi. Ma cosa vuol dire il momento migliore? No, nel senso avete fatto un molecolare. Non serve più il molecolare. Cosa vuol dire serve più? Basta il rapido in farmacia. Per entrare che per uscire dalla quarantena, da tutto basta il rapido. Ah, quindi sei con rapido, sei... Ma è quello della farmacia, però. Sì. È uguale agli altri. No, dovevate fare quello in casa. E così eravate positivi, ma potevate uscire e potevate fare uno dei numerosi... Covid party, che è la cosa... No, è la cosa... È la nuova tendenza, assolutamente, scusa. Scusami, tutti positivi, cioè no, questa cosa negativo, chi lo sa, positivi, tutti positivi. Oh, uno può fare quello che vuole senza mascherina, ci si abbraccia, si lotta. Ma infatti noi in casa stiamo da dire proprio perfetto. Ok, vabbè, d'accordo, però cioè, una festa come noi non la puoi fare da 2 anni e non la potrai fare per i prossimi 10. 1253 positività diversa. Adesso è il Covid, cioè adesso è la nuova frontiera, è il Covid party vera proprio, cioè Cioè entrano solo i positivi. Alla festa entrano solo i positivi. Okay. È un casino perché dura poco, poi dopo devi trovare una variante per poter rientrare nella festa. Vabbè, è ovvio. Questo però rende la festa ancora più epica. Perché sai che potrai godertela per poco. Esatto, un invito. È ovvio. Cioè, questa è una frontiera, io ve l'ho detto. Ormai è tardi, ci hanno beccato. Sei sbagliato. Invitate gli altri lì, voi non potete uscire. È vero. Bravo, Sceo, mi piace quando sei proattivo. Tra l'altro, tecnicamente sanno la terza dose, possono entrare e uscire. Hai già fatto la terza? Sì. Auto-isolamento, tipo... No, io sono in isolamento perché sono positivo. No, se uno ha la terza dose viene qua in casa e ride, scherza e poi esce, non ha sintomi, può fare il cazzo che vuole. È vero. Raga, organizzarci faceva... Lo so, ma quello è comunque un rischio. Invece se sei positivo non è nessun rischio. Certo. Certo, hai fatto la terza dose, non è un rischio. Al massimo fai due starnuti. Quello che sto facendo io. Che vuol dire, c'è sempre un rischio e comunque diventi positivo, cioè non va bene. Invece se sei già positivo non diventi positivo se non fai il tampone. Vabbè, questo è un altro discorso, però no, ma invece adesso il punto è proprio quello, invece bisogna fare il contrario, cioè quarantenari negativi. Quarantenari negativi, certo, è ovvio. Geniale. È ovvio, scusa. Comunque prima di Natale in realtà sta cosa si poteva fare davvero, perché non arrivavano a fare il molecolare e quindi se fai cazzo che vuole. Certo ragazzi, è la nuova frontiera, non avete ancora capito? No. È positivo? Prima... Sì, allora entri pure. Non ti chiederanno l'ingresso. Aspetta che vado a comunicarlo. Tipo, fai vedere il Green Pass e no, guardi, questo è valido, non gliel'hanno bloccato. Guarda, quello che è valido, forse lei dovrebbe tornarsi a casa. Agli altri no, mi dicono ora che siamo positivi dovremmo chiamare altra gente positiva e fare un party, perché tanto loro sono già positivi, quindi possiamo farlo senza mascherine, sputandoci addosso. Certo, anche un orgione se volete. Vabbè vecchio, se hai dei sospetti vieni su e fai una tira. Ragazzi, io ve l'ho detto, questa è... No, vabbè, è chiaro, uno poi non deve star male, ci mancherebbe, ma tanto se sta bene ed è positivo è perfetto. Tanto vezzi tu che hai raffreddore sempre, non se ne accorge nessuno. Sì, poi tra l'altro adesso non vanno più di moda neanche, credo, i vari sintomi, non sento gli odori, i sapori, adesso, colori. No, quello non c'è più. Hai male a un dito, può essere Covid. Sì, adesso esatto. Ormai non c'è più... Quindi, sì. Pensate, io pensavo di avere allergia, ma in realtà ho scoperto che sono allergico al Covid. Raga, allora, se dobbiamo dobbiamo organizzarci, coordinarci, essere tutti positivi nello stesso periodo. Raga, se siamo tutti positivi, c'è la sessione qua, ovvio. Bravo. Quindi, ragazzi, organizziamoci. Io se possibile me la schivo, però. Cerca di non negativizzarti, Salla, mi raccomando, rimani positivo che ci organizziamo noi intanto. Riga, tra l'altro, non vai a lavoro, cioè perfetto. Tanto, che bazzo, non sei un libero professionista. Ma infatti. No, tanto. Io già non c'è. Vabbè, quello vale solo per Giulio che è un imprenditore, ci sta. è l'unico che non va a lavorare di noi. In effetti Giulio è vero, un imprenditore, ci sta. Beh, effetti. Bene. Però anche col cash che ha fatto la babbo, allora Varrington vi porta per i sentieri oscuri in su per le montagne. A un certo punto si ferma in una radura, di fronte non c'è nulla, vedete che allunga la mano e apre, fa il gesto di aprire una porta ed entra dentro, sparisce dalla vostra vista. Ok, apriamo la porta invisibile e cosa c'è oltre? Cioè, apriamo una porta? Sì, c'è una porta invisibile varcata la quale vi trovate all'interno di una magnifica magione. Lui è rimasto qua tutto il tempo. Non lo sai. E noi abbiamo rischiato un paio di volte la vita per andarla a cercare nei boschi con i non morti che giravano. Lui, non so se l'abbiamo fatta questa cosa. Sì, sì, appena è sparita abbiamo fatto un tentativo. Abbiamo visto che non ci riuscivamo. Vabbè, rega, è morto. Vabbè. Però una volta ci abbiamo provato. Ah, sì, lo cercavamo, abbiamo trovato il carretto con i figli del corpo. Esatto. Siamo in una magione, pazzesco. E quindi qui che ti nascondevi? L'atmosfera è molto calda e accogliente. Davanti al portale c'è un magnifico camino e dentro questa sala, al di là della quale ci sono diverse stanze. E sì, dice, questo è un modesto rifugio offerto da questa nuova conoscenza. Vi porta al suo cospetto. Riconoscete il tizio pazzo che si era camuffato da cervo appollaiato su un ramo? Ah, è vero, quello che non c'entrava un cazzo, assurdo. Tanta ora roba. Il suo aspetto è... Perché non me lo ricordo. Sì, c'è stato un momento che abbiamo avuto a che fare con questo fuori di testa. Quindi da un albero, dovresti ricordarlo. Tipo un gufo, tipo. Ti ha sparato un fulmine, tipo. Esatto. È lui che ha sparato il fulmine, non lo stregone di merda. Ah, ho capito. Sì. Lui vi accoglie calorosamente, si presenta. È molto, molto piacere di conoscervi, prodi avventurieri. Il mio nome è Mordenkainen e questa è la mia magnifica magione. Sì, comunque, no, tutta questa gente, quando c'era Strad, mai vista. Voglio dire. Era Mordenkainen il mago contro cui si era scontrato Strad? Era lui. Vabbè. Arrivai in questa valle qualche tempo or sono. Ci sono degli oggetti che hanno quel suo nome? La fortezza? Sì, è tipo una sorta di divinità. Ah. La fortezza in cui siete è la fortezza, magione. La magnifica magione di Mordenkainen. E venne in questa valle per liberarla dal suo oscuro signore, ma sottovalutai il suo potere. Beh, come hai fatto a perdere che dovresti avere tipo 25 livelli almeno? Se lo chiedono tutti, probabilmente è un momento in cui non li aveva ancora fatti quei livelli, non lo so. Non è ma non è possibile livellare, quindi voglio capire come è. Infatti lui vi racconta che è un mago esperto di viaggi in altre realtà, in altre dimensioni, dove evidentemente là è possibile livellare. Insegnaci. L'LSD. Non ci credo. Sì, cioè, lui in 3.5 era nel manuale dei livelli epici, era tipo a livello 28, 30, forse di più. Ma qua e l'hanno messo qua. Quindi è regredito. E ha perso contro, voglio notare che ha perso contro lo stronzo che quando è morto ha detto: oh no, non posso rigenerarmi perché c'è la luce del sole, cioè sto coglione qua. Esattamente. Quello che si è lasciato prendere in lotta per dare i morsetti. Esatto. Stava facendo finta di essere preso in lotta. Ma in realtà sì, Strad, sì. Finché tipo è andato da una parte all'altra della stanza era immarcabile. Poi dopo sì, in realtà. Poi dopo siete riusciti quando a prenderlo... deciso di fare il wrestling con me. No. O comunque siete riusciti a sorprenderlo nel luogo dove lui non se ne poteva andare perché al suo interno c'era un anchilosauro. che cazzo di un anchilosauro. Esatto. Irina avevate un battaglio, ma Irina era anche sotto. No, non c'era sotto, era falsa quella sotto. Ah, è vero che era falsa la storia. Penso che io volevo uccidere Irina, invece siete anche io. Diciamo che la prima dell'inizio, tipo che la prima idea di tutti è stata: vabbè, raga, uccidiamo Irina, uccidiamo Irina, è finita. Questa è stata la prima idea di più o meno tutti, tranne uno che non nomino. Ho avuto ragione io. Bene. Ora sì, è morto. Ci abbiamo messo 3 anni, ma ora è morto però. Più. Quindi avete ottenuto quello che volevate. Che volevate. Esatto. Sono praticamente felice. Congratulazioni. Sì, è quello che sono desiderato. È morta. Non è tanto viva, quindi vedi tu. È andata con uno spettro di sicuro, non è che... Vabbè, però in realtà è andata più serena. Ha raggiunto la pace, diciamo. Vabbè, questo non toglie che prima era viva e poi non era più viva. Vabbè, ho capito, magari faceva una vita di merda, era stressata, invece è andata via in pace così. Vabbè. Però questo mi fa venire un dubbio, mi volto verso sfortuna. Uccidiamo tutti quelli che... Mi volto verso sfortuna e dico... Non sei tu che pensi che i morti sono fortunati, quindi... Sì, i morti sono fortunati. Allora Irina adesso è super fortunata. Certo. Mi volto verso sfortuna e gli chiedo... A parte quando profanerò la tomba sua e del suo sposo. Come facevi a sapere che Van Richten era tornato? E soprattutto, che cosa hai contro di lui? Lo sapevo che Van Richten era tornato. Giusto. Hai detto che cercavi questo vecchietto? E cercavo quest'altro vecchietto, non Van Richten. Quello... mago qua. Mordenkainen. Ok. E quindi... Ma non è alleato di Strad, però. Ne sei sicuro? Ti ha aiutato a sconfiggerlo? Ti ha tirato i fulmini da sopra un albero? In effetti. Ottima osservazione. Comunque. Mentre scappavi dai segugi di Strad. Ma che potevamo averlo come alleato? Già. Ma... Diciamo che il primo approccio non è stato dei migliori. Diciamo così. No, vabbè, riuscirlo a rinsavire era una roba veramente insana. Adesso mi sta tornando in mente che era imbarazzante parlarci. Era perché non basta fare come abbiamo fatto con il Leech? No, ricordo perché lui... Successo, perché lui poi dopo in realtà non è stato... Cioè, non eravamo riusciti comunque in qualche modo a interfacciarsi con lui. Sì, sì, poi però tipo l'avete lasciato, detto vabbè, torneremo prima o poi, siete andati via, una roba del genere. Abbiamo fatto in modo che non fosse più ostile nei nostri confronti, però mi ricordo che tu ci hai provato, e poi hai detto vabbè, raga, questo è impossibile, ci proviamo un'altra volta, ci torniamo. Poi non siamo allora, incontrati. Ok, praticamente lui... Strada l'ha fatto impazzire. Come no, la cosa è... Adesso è ancora matto, no? Adesso è sano. Allora, no, lui adesso è sano. Van Richten l'ha risanato. Dannato Van Richten. Esatto, no, era diventato impazzito. Era impazzito perché aveva realizzato che era bloccato lì e non riusciva più a sconfiggere Strad e a liberare la gente. Ma il problema è che non è che potevi andare da lui e fargli, come si chiama? Ristorazione, no, era Greater Restoration. Praticamente lui perché aveva... io un chierico, perché il nostro chierico anche se tu ce l'avessi un sacco avuto, di impegni. Lui aveva castato Mind Blank fare 20.000 su se stesso. C'è anche io Mind Blank perché è venuto parte della mia anima. Sì. Quindi se tu andavi da lui, gli facevi Greater Restoration, vedevi che non funzionava e dovevi aspettare che finisse l'effetto dell'incantesimo, che non sapevi quanto durava, e poi rifarglielo di nuovo. E a quel punto lui si rinsaviva. Quando durava l'incantesimo? Non mi ricordo, un giorno, cioè una cosa completamente a caso. Un di 20 giorni dopo che gli fai il primo Greater Restoration. No, non lo so. No, dice... Ah no, ok, a caso, tipo 3 di 6 ore dopo che l'hai incontrato. È una cosa totalmente random, va bene. Comunque, vi dice, vi ringrazia per aver liberato questa terra da questo male oscuro e in qualità di esperto di viaggi in altri mondi si offre di riportarvi di portarvi dove volete, se volete tornare a casa, oppure dice se non avete alcun posto dove andare, prodi avventurieri come voi possono farmi molto comodo in un luogo di mia conoscenza. Questa è la classica scena finale che apre a una nuova serie, a una nuova stagione. Cioè... Che luogo? Sei interessato? Vuoi vedere quanto è profonda la tana del Bianconiglio? Diciamo che c'è qualche scompiglio, come sempre, d'altronde, dalle parti dell'Averno. Cos'è l'Averno? L'inferno. Allora no, grazie. È comprensibile. Allora, ne ho visto uno, mi è bastato. Che paladino sei, io? Esatto. E scusa, ma che c'entra l'inferno col paladino, scusa? Dovresti andare da dare mazzate a diavoli e demoni. Ma io sono per aiutare... Sì, andiamo. Ma no, io sono per aiutare le persone sulla terra. Cioè, che lì chi possa aiutare? Non faccio nessun spiegone, devo solo tirare mazzate. Non faccio nessun spiegone. Ma cioè, solo in giro a tirare mazzate e urlare folle. No, scusa, folle, esatto, cioè che non ha, cioè, che attrattiva... Cioè, l'inferno, cioè, c'è paladino, problemi, il problema tra di loro. Il paladino difende. Scusa, che tipo di problema può esserci nel... L'Averno, l'inferno, quello che è. Quindi vuoi saperlo? Esatto, sei curioso. Sono curioso, ma paladino curioso, così platonico. Devi firmare questo modulo. Un non disclosure agreement, esatto. E boh, non lo so, non l'ho ancora letta quell'avventura, però so che c'è sempre lui. Solita storia, la dice, cioè, dice la prima sessione di quell'avventura. Ah, vi dice, sì, praticamente c'è questo arcidemone, un tale Azza qualcosa, nome strano, Amazon, esatto. Che sta per mettere le mani su un artefatto molto potente e credo a Azazel, forse. Forse, prima. Qualcosa del genere. Mai sentito, vero? Cioè, allora, Atanas probabilmente no. Io sì. E sembra che stia mettendo le mani su un artefatto molto potente e sì, sarebbe carino impedirglielo. E qualcuno vuole chiedere una cura per... Okay. Beh... Oh, che genere di artefatto? Boh, parlavano di una mano, non ho ben capito. Una mano? Una mano di Vecna? Sì. Qualcosa del genere, può darsi, sì, sì. Non credo che Atanas lo sappia. No, Atanas no. Questa voce fuori campo, non è Atanas. Va bene, qua è arrivato il momento di decidere il nostro, anzi, no, destino. È la testa della bambola che possiede Atanas e quindi lei lo potrebbe sapere, effettivamente. Ma se non ve la sentite, non vi preoccupate, posso comunque portarvi in qualsiasi posto voi desideriate. Non essere vigliacco. Vabbè, easy, io gli do tipo casa mia e vaffanculo. Non mi dite fregare il libro. No, cioè se mi porta a casa, mi faccio portare a casa. Bene, quindi Race va... in pensione. Qui le nostre strade si dividono. Ah, che il mio personaggio non voleva fare sta cosa dall'inizio. Il personaggio giocatore. Le strade si dividono. Il paladino andrà nell'Averno mentre noi andremo a casa. Mi sembra un ottimo finale. Ciao, Verdistan. No, non lasciatemi qui. No, io in realtà sarei per continuare. Chi vuole seguirlo nell'Averno faccia un passo avanti e tutti noi facciamo un passo indietro, rimane mezzo. Ma io in realtà potrei fare un passo avanti. Devo comunque andarci. È una cosa molto un passaggio. una chiusa figa se ci andiamo, in effetti ci può stare. Io gli chiedo, oh immenso stregone, ho sentito che le sue magie sono veramente eccelse, saprebbe per caso dare a un ammiratore una copia firmata delle sue peripezie, il suo libro, così posso ammirare, magari prendere un po' di spunto dalle sue prodezze. Gli faccio vedere il mio libro degli incantesimi. No, ma puoi scaricarti l'ebook se vuoi. Esatto. Lui... Puoi vedere il tuo, che è tipo grande come un pacchetto di figurine in confronto. Esatto. Ah, sei una, anche tu un volenteroso ricercatore in cerca di conoscenza. Beh, se verrai con me, avrò modo di trasmettertene molte. Non può fare una copia così adesso. Verrò volentieri con lei. Ho giusto però... qui un floppy disk. Marco, tu in teoria sì, cioè vai con lui e magari cerchi di tradirlo. No, vado con lui, però vorrei prima avere una copia magica. Dai, vai con lui. Quanto ci vuole per uno stregone del livello 1000, per un mago di livello 1000 mira a fare una copia? Dai, vai con lui. Dice, non ci vuole niente, il punto che è un oggetto del genere è estremamente pericoloso e non deve assolutamente cadere nelle mani sbagliate. Ma io infatti vengo con lei. Abbiamo ucciso Strad, che non potrebbero essere mani più sicure. Vabbè, abbiamo liberato Parocchia, l'abbiamo liberato lei. Io aggiungerei, noi abbiamo ucciso Strad, mentre chi possiede quel libro non è che ci sia riuscito tanto. No. Quindi lei era su un albero a fare il cervo, mentre noi liberavamo Parocchia. Bene, detto questo... No, va già Marco. Esatto. Io ho bisogno di una vacanza. Gli altri dove vanno? Ok. Quindi c'è neanche in questione proprio. Io voglio... Dove vuoi andare? No, aspetta. E voi che volete fare? Perché io sono anche per tenere la compagnia. Io almeno per ora torno tra la mia gente a mostrare quello che ho fatto per redimermi. Io come minimo devo tornare a casa a svuotare tutte le mie tasche e poi vivere di rendita fino alla fine dei tuoi giorni. Esatto, probabilmente posso non far più niente. Ma questo mago è molto vecchio, mezza età a giudicare dalla immagine che è qua in streaming. Sì, ma avrà del doping magico? Non lo so. Va bene, allora io... senso, se Sala sternutisce addosso, muore per il COVID o no? Non lo so. Allora io gli chiedo di perché D&D, quindi si spara una cura in faccia. Io gli chiedo di portarmi dal villaggio di Ade per diciamo informare eventualmente la sua famiglia e fargli avere finalmente un degno funerale, anche se... Ma certo. Le cure sono da chierici, non da maghi. Quindi lui non può curare il COVID. Non lo so. COVID. No, immagino che possa avere una pozione magica. Può darsi. Gliele rubiamo tutte. Ah, Giulio, è il tuo momento. Lui usa la pozione, gli starnutisci di nuovo. Io rimango qua. Ho combattuto. Dai. Nuovo signore. Sembra sia canon il suo periodo di impazzimento in Barovia. Canon per chi? Beh, comunque l'avventura è ufficiale. Quindi. Sì. No, è canon. Come un mago a livello 18 abbia fatto per contro Strad. Probabilmente non lo era ancora. No, sì. Che incantesimi ha qua? Un Mordenkainen. È un conta come Archmage, Arcimago. Come NPC. Ui. L'arcimago, eh? No, vabbè, in realtà mi... cioè, per come hanno fatto le regole ci può stare, però diciamo come background del personaggio ci starebbe meglio. Sì, perché è un NPC, non è un PG con dei livelli. Esatto. Sì. Ma scusa, ma se c'è dalla prima edizione sarà molto vecchio. Ha anche un sacco di magie che si chiamano col suo nome. Is better uncommon. Sì, boh, chissà, perché ovviamente qua ci sono delle date. Mordekainen Faithful Hound, Mordekainen Private Sanctum, Mordekainen Magnificent Mansion, Mordekainen Sword. Sono sì, 4, sì. Erano di più in 3.5. Vedi, l'hanno declassato. E che ci sono anche quelli degli altri suoi amichetti. Big la Mordekainen Junction, Mordekainen Arcade. Da, e che anno siamo in questa ambientazione? Non lo so, perché... Il momento si storia lui... di Forgotten Realms. Perché... Lui è nato nel 509. Di che anno di qua... AC? Secondo la Dungeons and Dragons Wiki. Invece qua gli anni in che cosa sono contati? Agli anni delle lanterne, degli alberi? Raga, non so, io sto leggendo una merda che ho. Vabbè, ah, sto parlando di Silmarillion. Non c'ha mai... la cosa non ci ha mai interessato. E... Bene, quindi Race va in pensione, sì. Garrosh torna alla sua tribù, Bardistran va al villaggio di Ad. Addio amici, è stato un piacere, spero di rincontrarvi. Sfortuna quindi cerca di entrare nelle grazie di Mordenkainen. Oh, ma ci sarò già nelle grazie di Mordenkainen, salvo grazie a noi. Con tutto quello che hai fatto per lui. L'anno dello scudo 1367 nelle sue grazie ci siamo in automatico perché abbiamo sconfitto Strahd, questo effettivamente sì. Ah, lui magari poteva anche liberare Ilya in effetti, ma forse è meglio così così. Ok, e mi manca quindi Atanas. Oh, che cosa fai? Adesso cos'è? Allora, per diventare il signore cosa devi fare? Devi uccidere? Ha bisogno che Mordekainen faccia un clone di se stesso, così poi lo può far uccidere. Ma genio! Oppure trovare un'innocente ragazzina e farla e diventare... No, io rimango. Oh, twist! Oh. Twist, Arabella e poi la ammazza. Genio! Tanta sarebbe roba. Stato bellissimo farlo tipo in come ultima risorsa durante la boss fight finale. Tutti i mezzi morti. Ma che ultima risorsa prima? Vabbè, perché magari non gli veniva in mente. Cioè lui deve uccidere lei? Non è detto che io voglia diventare un vampiro. E bere il suo sangue. E lei deve uccidere lui? No, poi lui deve essere ucciso da qualcuno che lo odia. Che è molto facile. La cosa difficile è uccidere qualcuno che o lo ama, ammira, prova rispetto per lui e bere e il suo sangue. E poi quando questo è più viene difficile. Ucciso da qualcuno che lo odia, lui torna come vampiro e questo è il gioco. Sì. Sì. Io rimango a Barovia. Io intanto lo ucciderei, così quando un giorno qualcuno ti uccide, sicuramente qualcuno che ti odia, tu sei vampiro. Almeno però la risorsa, cioè, prima che lei cambi idea su di te, io la ucciderei. No. Tu rimani qua a far cosa, Atanas? Ogni signore oscuro ha bisogno del proprio braccio destro. Arabella sarà il mio braccio destro. Dopo non sei veramente un signore oscuro perché muori. Questo lo dici tu, non è provato, lo vedremo. Cosa rimani a fare qui? Diccelo. Ma noi intanto stiamo venendo trasportati. Diccelo. Diccelo. Signoro. Quindi poi Giulio, dopo tu cosa fai per diventare il signore oscuro? Raccontaci tutta la gag. No, cioè in realtà non lo so, prenderò possesso lì del castello. Il castello rimane praticamente disabitato. Tutti gli abitanti della Barovia lo associano, comunque hanno un timore reverenziale nei suoi confronti perché è ancora percepito come luogo di malvagità e un luogo maledetto. Quindi nessuno ci abita. E poi c'è un Ilia bloccato tipo lì. In qualche modo lì manderò dei lupi mannari finché qualcuno non riesce. Ogni mattina Giulio si sveglia e fa un test e lo manda a Boporama. No, in realtà non divento veramente signore oscuro, resto semplicemente lì e niente. Ma no, scusa, no, adesso ci devi dire come diventi signore oscuro invece. Ma non lo so, non lo divento realmente. Ma non lo sai, adesso non è che devi giocare. Beh, in ogni caso l'autorità di colui che ha ucciso il demonio Strad viene riconosciuta da tutte le città. Semplicemente resto lì, reclamo il castello di Strad. Quindi tu sei magari il Senzocchi diventi. Tipo. Esatto. Magari mi vendicherò sulle streghe della cosa, del villaggino. E poi niente, poi vedrò come evolve la situazione. Cioè, alla fine in realtà Atanas non è interessato a governare gli altri. Ma se tu non sei il cattivo... Cioè, adesso un cattivo deve subentrare, capito? Beh, si è creato un vuoto di potere, ovviamente. Poi magari diventerà il cattivo, diventerà Arabella. Io ammazzo la gente per Arabella, che ne sai? Fico. Il demonio bambino. Dipende da quanto prenderà da me. E quindi inizia così il regno di Atanas il Senzocchi, altrimenti conosciuto come Atanas il Riservato, in quanto poco interessato ai suoi doveri di regnante, che quindi il regno verrà amministrato. È più da Pietro, c'è Pietro che... Pietro continuerà a fare il borgomastro di Kretzk. In realtà tutto quanto l'amministrazione, la contabilità, viene tenuta da questo tizio, tale Lief Lipsig, che stava in una delle stanze del castello. Quindi, esplorando il castello, scopri questa stanza dove dentro c'è sto contabile vecchio incatenato alla scrivania, che è sommerso da... Va bene, ti potrei falco. Liberare. Non le tocchi, non le tocchi, non mi tocchi. Esatto. Sto tizio qua. Pace. Che da un sacco di anni che lavora per Strad e praticamente tiene tutti questi faldoni con tutte le ricchezze e le conquiste di Strad, i tributi, esatto, lui segna tutte le tasse e i tributi che vengono riscossi e dice che è triste perché Strad non gli permette di sapere quali sono tutti i suoi tesori. Okay, per me può fare un inventario completo di tutto il castello. Ok. Non frega un cazzo. Ecco, abbasserò le tasse, però ogni anno organizzerò dei giochi sanguinari in una mega arena. In cui io combatterò contro tutti. Per trovare un degno successo. Tipo giochi gladiatori. Ok. Misteriosamente li vince sempre un licantropo. Ma scusa, il fatto che poi la loro moneta non valga un cazzo, intanto non commerciando con l'esterno. Beh, adesso le vie commerciali si riaprono. Rimane aperta? Rimane per adesso. Che sposta a conquiste, quindi devi rinforzare difese. Devi fare un esercito, esatto. Ok, allora individuate le strade centrali, le tempesterò di pali con dei cadaveri conficcati, tipo no, Vlad, di Valacchia. Trovi in modo tutte, che... tutti i cadaveri di cui hai bisogno. nei campi intorno a Vallachi. Praticamente di notte tutta l'intera città veniva rifornita dal lavoro di questa orda di non morti che era stata evocata per lavorare nei campi, tagliare la legna, fare tutte queste lavori. Comodo, cazzo. Infatti loro stavano da Dio. Adesso che Strad è morto... La ribellione di Vallachi. Il maledetto senza occhi, non ha occhi, non ha occhi neanche per piacere. E quindi gli tocca tornare alla vita che facevano un tempo. E poi addestrerò Arabella al combattimento. Ok. Così che posso difendersi quando la ucciderà. Giulio, capirai che uno non... Non c'è divertimento se la vittima non può dire resistenza. Giulio, capirai alla fine, cioè sarà così, tipo tu farai così, poi a un certo punto capirai che l'unico modo per salvare Barovia è diventare il vampiro. O farlo diventare Arabella. E quindi, Arabella si dimostra molto abile, e anche se la Wizard non vuole che lo si dica, il suo retaggio vistano la rende particolarmente abile, scaltra e a rubare lo sappiamo, cazzo. Cosa vuol dire la Wizard non vuole che lo si dica? Sì, perché hanno corretto la descrizione dei Vistani che dicevano si sono dei ladri ubriaconi eccetera eccetera perché diceva ricorda troppo quella di un'altra popolazione e scopri anche che il suo retaggio vistano le fornisce delle abilità anche di tipo esoterico. In particolare i vistani hanno tutti questa predisposizione nel lanciare dei malocchi e delle maledizioni particolarmente efficaci. Okay. La maledizione sempre di... tornare utile. Sì, non l'ho mai usata su di voi, però effettivamente è divertente. Che Poi cosa posso fare ancora? Ho la testa di Isabel, che è la bambola. È vero, la testa di Isabel. Sì, ma Giulio, poi non ci interessano le tue leggi, le tue, cioè, non so come dire. Ve ne siete andati tutti e lui è l'unico rimasto. Esatto. E poi io ho due pietre del potere. E hai due pietre del potere. Oh, puoi fare del gran vino e commerciare il vino fuori. E invece si mangiò le pietre. E poi c'è Baern e anche Arci. Ah, è vero. Chissà che cosa fanno. Baern, sì, va via il più lontano possibile per non essere mai più visto. Bene, ho sprecato la resurrezione. Baer fa una manovra. Sì, voleva già andarsene. Patk. Patk, la sua sfida. Qual era l'obiettivo di... si mette in cammino. Non so, lui allora fa sempre il druido con l'anta costituzione per trasformarsi in un dinosauro. Questo era il suo credo scopo. Che arrivare a 20 costituzione fosse l'obiettivo. Psicologo per la paura del fuoco. Va dal Vrock del Monte Baratok per cercare di fare un arrosto gigante di tacchino e mangiarselo. Arrosto prevede il fuoco, mi sa. Allora mangiare è vero. Piace. Psicologo sicuramente. Io con la testa di Israel in effetti posso continuare ad indagare sul mio passato mentre sono lì. Certo. Forse se credevi a Mordecai di mandarti nel luogo del suo passato, lui lo sapeva e ti ci mandava. Può essere, ma ormai non c'è più. Mi immagino tipo Giulio, tipo che sta nel salone e conversa tipo con Ilia bloccato lì, tipo. E conversa con Ilia bloccato e una testa di bambola. Una testa di bambola. E, anche volendo. Il riservato. Volendo usufruire pure dei consigli del buon vecchio Exe Thunder, che è sempre lì nel suo tempio, e riesce a utilizzare il potere delle pietre per recuperare la memoria del tuo passato. Figo. E, appunto, come avevi visto in una visione che era scaturita, non mi ricordo da quale avvenimento, penso quando avete... Non sono svariate visto... volte, ho sniffato la roba. Sì, quello... Forse anche quando avete distrutto il cuore di cristallo. Il cuore di cristallo può essere. E appunto, praticamente, la tua origine, la nascita di Atanas avvenne in seguito di questo massacro in un villaggio sperduto, dove l'Atanas originale... un malvivente e un violento depredatore di villaggi, fece questa strage di innocenti e per uno scherzo del destino venne scelto da due entità celestiali che, assecondando il volere dell'angelo della morte, che aveva deciso che Strad stava sfuggendo per troppo tempo dal suo destino e aveva mandati con l'intento, dopo il fallimento, di aver inviato a Barovia un'entità buona, un Deva, con l'intento di distruggere Strad, ma che è stato poi corrotto e trasformato nell'abate che avete conosciuto, voleva mandare all'inferno qualcosa che invece di bruciare il fuoco, che fosse esatto, che bruciasse di più, che esplodesse in quelle fiamme. Così sigillarono questo celestiale, il cui nome puoi deciderlo tu. Anzi, aspetta, come si chiama la bambola? Isabel. Va bene, Isabello. Tanto non hanno sesso gli angeli. No, vabbè, tanto non hanno mica sesso, no? Quindi può chiamarsi anche Isabel. Sigillò in modo da non far percepire la sua presenza, insomma, la sua essenza divina all'interno della bambola, e che le instillò in Atanas l'istinto di tenerla sempre con sé, al fine un giorno, quando tutto sarà finito, di potersi riunire. Purtroppo però Atanas diede Isabel a Strad, che, accorgendosi che c'era qualcosa di strano in questa testa di bambola, cominciò a fare degli esperimenti. E in particolare non gli parve vero quando si arrivò la sera del suo, come dire, la sera in cui l'abate doveva presentargli Vasilka per proporla in sposa a Strad in sostituzione di Irina e quindi spezzare la maledizione. Per puro caso trovò che lì nel castello c'era questo giovinotto che era appena stato trapiantato con delle parti del corpo di Atanas, dopo che lo aveva smembrato a seguito di una scena molto divertente. Perché sì, Ilia era morto, l'angelo è andato lì e l'ha risorto. Risorgendolo lo aveva corrotto, perché era anche lui stato corrotto da Barovia, e quindi gli erano venuti gli istinti sadici e questa cosa di Ilia è prevista dall'avventura o l'hai inventata tu? La cosa che l'abate lo risorge, perché lui era tipo già morto per non mi ricordo che motivo, e lui, l'abate, va lì, gli ridà la vita e dice al borgomastro: trovami un abito da sposa per, da vestire Vasilka, così Strad sì, se la sposa. Ok, è poi il default. Poi, esatto, il problema è che lo risorgeva con questa corruzione morale, questo piccolo difetto che lo rendeva un omicida praticamente, o comunque cercava sempre di far del male alla gente. No, il problema era che era inutilmente crudele. Sì, sì, era diventato un figlio di puttana. Quindi ha trovato un figlio di puttana più grosso, vero Atan? E che l'ha ucciso. Allora la Bat ha detto, l'avevo appena resuscitato, che due palle, per favore dammi delle parti del corpo, così. E da lì in poi me lo sono è tutta farina del mio sacco, è stato molto divertente. E quindi ha trovato questo, quindi Strad ha trovato Ilya, che aveva dei pezzi di Atanas nel corpo, ha trovato la testa, aveva il potere della gemma dei Martinkov, gli serviva soltanto qualcuno che potesse interagire con l'energia positiva dell'entità celestiale. Chi meglio di un chierico della vita, che aveva gentilmente offerto i suoi servigi a Strad alla prima occasione, ovvero il caro Byrn, che quindi lo ha fatto questo rituale utilizzando gli altri artefatti che aveva, di cui era venuto in possesso. Infatti Byrn aveva con sé il medaglione. Ma quando ha risuscitato questo Ilya, però non era più cattivo dopo una seconda resurrezione. La seconda volta non stava comunque molto bene, perché il poverino era stato, cioè adesso aveva nel suo corpo non solo la corruzione dell'abate, ma anche i pezzi di Atanas. Okay. Però effettivamente in che condizioni fosse non si sa, perché poi è stato rapito da Strad è stato sottoposto a questo rituale. E, chissà, bella domanda. E, dopodiché quindi era stato rimandato nell'abbazia per diventare il nuovo abate e insomma mettere alla prova i prodi avventurieri in uno scontro degno di questo nome. E, dopodiché però lo avete sconfitto e lui è fuggito nella foresta dove è andato alla torre dove c'era Irina. Ha trovato la torre ed è esatto, ha incontrato Irina nella torre. Essendo in un campo antimagia, il legame si era spezzato e quindi è ritornato, come dire, in sé, e praticamente ha avuto un crollo psicologico dopo tutto quello che gli era successo, e come dire, Irina è stata per lui una specie di ancora di salvezza. Dopodiché, appunto, vi siete rincontrati? Sì, è arrivato al tempio. No, vi siete rincontrati all'incontro con i licantropi quando dove appunto erano solo io e lui, c'era anche tu, stavi inseguendo Kevin, sì, caro Casimir, e quindi lui è arrivato lì. Casimir ha detto: sì, devo fare questa cosa, però non voglio più stare con voi, sto con i miei nuovi amici. Quindi sono andati loro tre e loro tre per la loro strada, dove hanno per puro caso rincontrato Vasilka, che era fuggita la notte in cui è arrivato Strad, dopo che lui l'ha rifiutata, schernendo il lavoro che ha fatto l'abate, lei ha dato di matto ed è uscita sfondando i cancelli della città, in perfetto stile Frankenstein. E poi il praticamente il redivivo fratello di Irina, il tizio, come si chiama? Uffa. Adesso no. Eccolo qua. Izek. Izek, il cui corpo, dopo che gli avevate dato fuoco, praticamente si è riformato, però la maggior parte del suo corpo era stata coperta dalla maledizione che aveva già occupato il suo braccio, ma poi non è durato molto, nel senso che una volta arrivati al tempio sono morti tutti, compreso il povero Casimir, poverino. Se Casimir fosse sopravvissuto, avrebbe preso il dono, quello della risurrezione che ha preso Salla, e sarebbe andato nelle catacombe per resuscitare sua sorella Patrina. Peccato che non avrebbe avuto senso, perché Catrina era comunque una trasposizione di Tatiana, ce ne sarebbero state no, due. No, non c'entra niente. No, non era una. No, no. Mm. Era un'elfa che per la sua sete di potere voleva diventare la concubina, la moglie di Strad. Avevo capito che è stata una delle trasposizioni di cose. Beh, effettivamente ce ne sono state diverse, quindi ci sta che si possa confondere. E no, invece lei era un'elfa che attirato le attenzioni del conte. Quindi è proprio una stronza. Era. È proprio una stronza. Allora bene, ma allora top così. E infatti Casimir la fece lapidare. E poi la voleva risuscitare, per esempio. Esatto, poi in sogno il suo spirito tornava e diceva mi sono pentita, aiutami, eccetera, eccetera. Ma non ci riuscirà mai, perché è morto. È morto. A meno che qualcuno non risorga lui. Ma va bene. Per la noia si mette a risorgere i suoi nemici per poterli ucciderli di nuovo. Potrebbe stare solo per ucciderli io, quelli che Quante volte puoi resuscitare, Salva? Mi ricordo com'era. L'ha già usato. Una l'ha già fatto. Una l'hai già usata. Ho fatto per quel maledetto. Ho già fatto la mia buona azione. Quindi basta, se non potresti neanche. Hai fatto la tua manovra. No, è andato l'asa, nonostante lui ci abbia abbandonato tutti. Esatto. Più volte. Meritavo di cambiare allenamento dopo quella cosa. È vero. Beh, oddio, dipende che cosa ne facevi una volta risolto. Hai fatto una cosa molto disinteressata, però. Cazzo, ho risuscitato l'as pur sapendo che ci ha tradito solo perché era un compagno. Esatto. Sei buono qua, vabbè, quindi no. Potevi diventare buono. È l'unica volta che ho giocato i ruoli in tutta la campagna, cazzo. Ed è stato un errore. Bene. Ed è stato un errore. E mi avete pure insultato. No, perché no? Non è vero, anzi abbiamo applaudito io quella tua. Esatto. Vabbè, ecco, magari non applaudite, però. Bene, allora, fatemi qualche recensione. Da parte mia, devo dire che rimpiango la scelta di aver dato al caso l'inizio della campagna, nel senso che all'inizio tu prendi le carte, le estrai e quella ti dà la posizione in cui stanno i tre oggetti magici superpower, e l'alleato e la stanza in cui Strad verrà, ci sarà la battaglia finale. Così facendo, due oggetti su tre sono finiti praticamente nel castello di Strad, e poi il terzo gliel'avete regalato, quindi alla fine ce li aveva tutti lui, e questo sicuramente ha contribuito ad allungare parecchio le tre cose. Tre oggetti quali sono? La spada, il talismano e il libro. Perché il libro dovrebbe aiutare a sconfiggerlo? perché capisci la sua storia, sai quali, praticamente ti dice quali sono le sue debolezze e come, insomma, ti dà una mano. E la poi spada inoltre... è quella di Salla? Sì, okay. La spada di luce. Sì. E il talismano. E la spada di Giulio qual era? La spada di Giulio era una spadina che spada, si trova nelle galere, che è una spada magica così lasciata lì per terra, ma ci sta, ce l'aveva qualche avventuriero che è morto lì, probabilmente. E questo effettivamente è un grosso... il caso perché avresti scelto tu le location. Sì, sarebbe stata una cosa molto più... Ah, io potrei dare a qualcuno di voi la spada magica. Avez non vuole, basta, non vuole. Avez ha un equipaggiamento. Ce l'ha già, tra l'altro, esatto. C'è una spada più due, un'armatura più due. Perché dovresti con una spada magica, Giulio? Per me Avez ha un equipaggiamento che può andare tranquillamente nell'inferno. Perché è una spada magica legale buona, tipo, e vuole distruggere il male, quindi finché distruggiamo strada, ok. vabbè, la gag, beh, fa tutto parte della tua nuova leggenda, Giulio. Tu quella lì praticamente la vai a nascondere da qualche parte. E rimarrà in attesa che un nuovo eroe la impugni per ucciderti. Ok, ci sta, va bene. D'altronde è la stessa cosa che è successa con la spada. Come sarebbe se tipo tra qualche anno la spada anno... di luce era la spada del fratello. Ma infatti l'unico motivo per cui mi piacerebbe continuare è fare il Barovia guidata da Giulio e combattere Giulio. Sto dicendo come sarebbe il fatto che Vez ritorna dopo qualche anno. Magari tra qualche anno lo faremo, però facciamo. Comunque la mia Barovia non sarebbe un regime del terrore, a meno che... cioè dipende un po' da Arabella, in effetti. Non sia dalla sua parte. Beh, dovrebbe fare il Master Giulio. Non si appunto. E cosa c'era nella tomba del santo qua distrutto che è venuto il raggio di luce? Lì praticamente dovevi mettere il medaglione e si apriva e c'era, mi sembra, un anello più uno, quelle che ti danno più uno ai tiri salvezza, più uno alle cose, mi sembra. Era Kretzk nel cimitero dell'abbazia, la tomba della sorella. Ha fatto esatto. La battaglia finale. Come? Potendo scegliere dove l'avresti fatto lo scontro finale. Boh, quello non è stato molto molto determinante in realtà, è andata bene anche così, aveva senso. Nella sua libreria. Anche se non era capibile, cioè come benissimo come cosa, ma... lo so, vabbè, lì vabbè, è chiaro, se era troppo chiaro ovviamente non c'era gusto. Boh, cosa cambiava, che in teoria da quella stanza per qualche motivo lui non scappa più. No, quello ho capito che cosa, ma nel senso che se fosse stato più chiaro cosa cambiava, cioè noi comunque avremmo fatto comunque quel tipo di... Sì, no, quello infatti è l'unica carta che, indipendentemente da quello che ti viene, cambia poco. Sono le carte degli oggetti. Nel senso, io oggettivamente tu l'hai dovuta spiegare perché non, secondo me non era arrivabile. Cioè, non, sarebbe stato arrivabile se non l'avessimo fatto 3 anni fa, forse. Il luogo del sapere, cioè siamo stati in un tempio, nel tempio della conoscenza, tipo. Sì, è vero. Non so come sì, dire. Sì, no, è vero, cioè, che dice, scusate, non è il tempio della conoscenza, il luogo del sapere, ma il suo bagno. Okay. Esatto. Perché no, c'è un era libro, la sua perché biblioteca. C'è un libro a piacere. Sì, ok, d'accordo, però... No, è chiaro, sono dei luoghi all'interno del castello, però chiaramente sì. Questa cosa non potevi sapere. L'anello che ti trovavi era un anello della rigenerazione. Minchia. Tanta roba. Ma dove è questo? Nella tomba quella col simbolo dove dovevi inserire il medaglione per farla aprire. E perché non si poteva ottenere distruggendo la tomba? Perché era? C'è scritto che se la tomba era? Che c'era una tomba nel giardino, nel cimitero dell'abbazia, con il nome di Petrovna, Tasha Petrovna. Tasha però per trovare una chiesa. Cosa farò nella della rigenerazione? Ah, ogni tipo 10 minuti rigeneri un D6 di punti ferita, una roba del genere. Tanta roba. Te lo passiamo. Non poteva essere utile perché ci serviva il medaglione per prenderlo. Oh, il medaglione l'hai preso solo alla fine con Strand. E fare crescere il anche il medaglione. No, in realtà il medaglione non l'abbiamo avuto da Non è quel medaglione. Non ce l'avevamo. Attenzione, non è quel medaglione, è un altro. Okay. È un altro. Che sì. Non abbiamo. Esatto. Non abbiamo trovato. Che sta nelle crypt. Comunque, diciamo che. Secondo me la scelta delle classi iniziali limita parecchio, perché un chierico ci vuole, cioè noi non ce l'avevamo. Certo, vai dritto con quello. Non dico indispensabile, ma ti svolta tutta la partita. Sì, sì, cioè, è easy mode, vai veramente dritto, certo. Però ci sta, nel senso, così ve la siete sudata ed c'è più soddisfazione nel farlo. Beh, oddio, anche il paladino è molto forte in questo, infatti lo è stato. Il paladino è molto forte, certo. Se il party è dalla sua parte. Anche il druido. Ma io ho dovuto combattere contro i vostri e ha vinto lo stesso, quindi è indubbiamente molto il forte. Il druido è rotto in qualsiasi edizione, perché è rotta la classe. Ma sì, ma in realtà, rega, finché c'è stato Arci non abbiamo avuto questi gran problemi, guarda tutto. Sì, è vero. Vabbè, ma quello perché il druido è rotto e basta. E vabbè, quando abbiamo cominciato a perdere il tirannosauro, che ogni tanto dicevi Arci, tipo noi eravamo tipo tutti morti, aiuto, cosa succede? Arci fa, boh, ma io avrei tipo 80 cure se volete. Tipo, sì Arci, volentieri, però al momento sono un tirannosauro volante che scuda poco. Che poi Arci lo usava un po' con il... è ovvio, diciamo... ma se Arci avesse giocato, diciamo, tra virgolette, normalmente, noi metà dei problemi non li avevamo. Poi vabbè, in realtà era comunque lui che ci faceva vincere per forza, però sì, nella 5 il druido è barato, vabbè. È rotto. Ecco. Eh beh sì, quando c'eri tu che eri il druido, facevano così, tipo, chi vuole affrontare? Ti ricordi che Kata fa, non è scritto, non è previsto che tu abbia vinto questo scontro. Sorpresa. Chi si può ergere al campione? Tipo il guerriero, il barbaro, tipo sì. Il druido? Sì, è la campagna di Tiamat. E poi tipo, il druido, tipo il drago arriva il druido, tipo orso, lo prende, la fatta di capo. Ma a parte questo, no, fatemi delle recensioni anche per evitare magari in futuro di fare stupidi errori o cose che non vi sono piaciute, o al contrario cose che vi sono piaciute da ripetere. A me livelli veramente tanti. Non si dice la parola livelli. Con a me è piaciuta molto l'interazione di Vardistran con i PNG. Io quella l'ho fatta veramente tanto. Sempre giochi senza livelli. Grazie, Shea. Infatti... No, un capolavoro dietro l'altro. Cioè, ogni volta lui che chiedeva tutto ai PNG, il PNG rispondeva: andate là e non rompete i coglioni. Diciamo che secondo me il limite è il fatto che sia comunque una campagna preparata. Quindi, diciamo così, le parti divertenti. Però aveva dei risvolti divertenti anche questa cosa. Allora, le parti secondo me più belle sono quelle dove diciamo abbiamo un po' spaziato a caso, però poi il punto è che tu per poterci riportare questo cazzo di vino alla fine. Sì, appunto, cioè il vino è fondamentale e oggettivamente sembra una cagata, cioè nel senso sei lì che dici oh devo sconfiggere il male, ti dicono però ci manca il vino. Cioè, tu sei lì tipo della serie, sì, ok, rega, va bene, però ci sono cose, più importanti. Essendo preparato, sì, però devi incanalare in quello che... Per farti capire che sono tutti fuori di testa, cioè non ragionano in maniera logica. Sì, ma in realtà no, perché poi in realtà il vino è fondamentale, cioè dal vino parte tutto. Cioè noi quando abbiamo cominciato finalmente a andare sul vino, ma ci abbiamo messo 40 episodi, sì, proprio perché il bello era l'interazione di tutti quei no, e quindi noi a un certo punto semplicemente la nostra avventura è stata un po' affidarci almeno ai PNG, cioè tipo andavi dal PNG e dicevi ok, adesso cosa dobbiamo fare? E poi puntavi sul fatto che lui ti desse il prossimo step. Ok. E questo, ma questo secondo me non è tanto colpa tua, è semplicemente il limite di un'avventura preparata. Okay. Che poi in realtà, che poi in realtà su molte cose, però su diverse cose è riuscito a... No, no, no, infatti secondo me, appunto, ripeto, cioè le parti di twist sono state molto belle, quindi infatti sei stato molto bravo anche sta cosa che ci hai detto. E anche il punto rapinata sulla frustrazione. Sì, sì, no, il no, è lo scopo dell'avventura. No, no, no, no, infatti quello, in quello assolutamente, vabbè, sì, sì. Ma quello, vabbè, è evidente che sia strutturata così, adesso è ovvio che uno perde un po' la testa, però ci sta. Però nel senso, un conto è la frustrazione di Strahd che arriva e gli devi consegnare gli oggetti magici, che va bene, un conto è quel cazzo di frustrazione perché tutti vogliono il cazzo di vino. Sì, no, è il fatto che a un certo punto sì, dici, cioè è stato quello, cioè secondo me quella cosa, diciamo, che un po' era fatta scendere durante il coso è stato proprio il fatto di dire, ok, l'unico modo per, cioè non so come dire, ma ripeto, non è un limite tuo, secondo me è il limite dell'avventura. Vabbè, certo. È scritta così, ti dice esatto, cioè secondo me non è molto ma non è molto, so come dire, cioè va bene che non sia, va bene che non sia lineare, ok, però che sia una cosa che tra virgolette ha poco senso, un po' un limite, secondo me. Tutto lì. Non ci sono step che puoi saltare. Cosa avrebbe detto la testa nella torre dentro il lago? La testa nella torre dentro il lago? La testa, di, testa di una Vistana che Varrichten aveva per entrare in Barovia. Lui si era unito a questa carovana. E quindi quello era praticamente il tizio che l'accompagnava che ha fatto quella fine, perché lui odia i Vistani per via del suo passato nazismo tormentato, esatto, nazista, beh, rubano i motorini, esatto, cioè. Esatto. Vabbè, se non li odia, li metti in prigione, non è che gli tagli la testa. La torre, tra l'altro, mi sa che non è migliore di Atanas, mi sa che non avrebbe comunque detto niente. Perché forse lui il tipo era muta. Ma quanto è bello quando si è splittato il party? Ha tagliato la lingua. Il mio party. Aspetta che la vada a prendere. Il tuo party è morto, sì, me lo ricordo. Infatti c'è stato... È stato epico. Quando Vez ha capito come funzionavano i PNG, dopo tipo ignorava quello che dicevamo noi, volevamo fare noi, e diceva, no, no, no, ha ragione Smeralda, andiamo con lei, che tipo non l'avevamo mai vista prima. Dopo tre secondi, tanta roba, rega, ho svoltato l'avventura. No. Tipo, ma noi saremmo la tua compagnia, in realtà... più o meno amici. No, no, Smeralda ha ragione. Io a parte la roba del vino, a me è piaciuta. Inoltre, la mia, diciamo, backstory è stata molto incorporata. Quindi. Ecco, effettivamente una cosa di cui avevo paura era che mi sono concentrato molto di più sulle storie della tua, e forse qualcosina di quella di forse. Ho dato molto più seguito al background di Atanas e un po' di Vardistran, forse ignorando un pochino gli altri, non lo so se vi siete sentiti trascurati. Dipende dal background. Beh, a me quando c'era un appiglio disponibile lo coglievi. Sì, è vero, tu sei stato molto vorace di... Ma io non mi ricordo neanche il mio background. Era vendicare Adene. No, ah vabbè, ok, vabbè, ma era un pretesto, considerando che la base del mio personaggio era tipo un ragazzino di merda che è scappato di casa, direi. Ok, sì, non avevo molti appigli effettivamente, però li si potevano creare in vari modi. Boh, sì, ma quelli un po' più elaborati erano quelli di Giulio e di Marco, in realtà, come background. Esatto. Ah, la testa ti avrebbe detto che si chiamava Jan ed era stato bandito dal suo clan per aver rubato. Quindi uno spreco di un incantesimo. Un mezzelfo bardo di nome Rictavio gli diede un passaggio sul suo carretto carnevalesco. Hanno viaggiato insieme per diversi giorni, ma i rapporti tra loro erano tesi. E quando capì che Rictavio stava cercando la strada per Barovia, Jan provò a rubare il vagoncino di Rictavio e anche la sua scimmia, che adesso è di Pact. Yeah. Ma Rictavio lo sbudellò con la sua spada. Ironia, un vistano bandito per aver rubato. Dice perché l'hanno beccato, ci sta. Dice, può essere. Ah, Yarn crede che la mezzelfo voglia portare una grande la rovina ai vistani e quindi prega i personaggi di avvertire la sua gente. Non sa dove sta il suo corpo. E tutto questo odio perché Rictavio aveva un figlio che venne rapito dai vistani e venduto. Beh, la loro cultura, cioè. E si chiama, esatto. Revis. Olè. Chi? Ed ecco da chi hai imparato a rubare. Sarebbe figo, però. No, perché in realtà io ero comunque ricco di famiglia. Ah, ok, allora. Quel nobile scappato di casa. Comunque, tornando, esatto, al discorso recensioni, tra virgolette, la parte che a me è piaciuta meno, ma gusto personale, tutta la parte, diciamo, del castello, nel senso, o anche parti del tempio, ti sposti, picchi, non c'erano scelte da poter fare, non c'erano anche solo un mini enigma da risolvere, magari inserito tra una stanza e l'altra, cioè una roba del genere. Certo, solo menarsi e basta. Cioè, diciamo che per intere sessioni non succedeva niente se non tiri di dado, che da un lato è bello. Il dungeon in cui ci siamo cagati sotto per tutto il dungeon non era male. Quello in cui c'era il tizio che girava e noi che continuavamo a gironzolare. Il tempio. Quei maghi e la palla di fuoco. Sì, il tempio. No, cioè, quello... Beh, il tempio però si è divertiti anche, quello che c'erano tutti... Quello anche. C'erano tutti i poteri, c'è stata la fiera dei poteri. Quella infatti è la parte migliore, secondo me. Quella tempio. La parte del castello. No, è che sono... Poi cioè, il problema lì sono anche molto le descrizioni. Sì, che noi soffriamo. Il castello forse è un po' più... Il castello... Cioè, alla fine era praticamente un andate lì e lì c'è l'obiettivo, andate lì e lì c'è l'obiettivo, cioè non come dire, non c'era più una parte... Boh, avete avuto anche una buona anche parte lì di esplorazione libera. A parte le catacombe, non tanto. Anche drogato Arabella per poter passare. Fatto qualche cosa, credo. Forse, però, come è venuta fuori, a me personalmente è risultato. No, è vero che ci sono state delle sessioni intere a tirare dei dadi a fare dei danni e ricevere danni. Al castello, io mi sono buttato con superhero landing sulla faccia di Bayern. No, state delle robe abbastanza. Ah, no, ci sono state, però abbiamo fatto, cioè, è la parte in cui ci sono state più plurisessioni. Cioè, secondo me, adesso, ripeto, la cosa è stata che noi a un certo punto, cioè, da quasi subito abbiamo preso una direzione che però non era quella che dovevamo seguire e quindi praticamente a un certo punto, tipo Katta ci ha dovuto prendere, tipo, così fa no, buono Kretzk, via Kretzk, via di qua. E quindi tipo siamo stati accompagnati a fare, cioè secondo me è stato un po' quello la cosa. Perché... Sì, ritorniamo sempre al discorso, cioè a me la cosa che, cioè, a un certo punto è stato figo perché noi a un certo punto tipo Kretzk abbiamo fatto la nostra fortezza e quella era oggettivamente una figata. Diciamo che c'è anche il mio discorso, forse un po' ritorna al tuo, cioè col fatto che è preparata e quello alla fine ci sono degli step che devi fare, ti ritrovi a incastrarti in quelle cose. Ma sì, è che secondo me è un po' pensata per, cioè, come le altre preparate che abbiamo fatto, cioè nel senso col fatto ti dico ok, c'è questa opzione qua, dici ok, boh, vado per questa opzione qua, mentre invece noi siamo un po' della serie, ah, ok, sì, c'è questa opzione qua, ok, non chi, mi se ne frega. Chi se ne frega, chi se ne frega, adesso la creo io un'opzione che, cioè, in realtà è no, però è il bello, diciamo, delle nostre cose. Poi vado, io vado dall'altra parte, esatto, però tipo che sia stato bellissimo, funziona. Abbiamo assaltato la casa del borgomaster, sì, no, ma infatti ripeto, a me le cose che sono piaciute di più sono state proprio quelle fuori script, cioè quelle fuori script secondo me sono state delle gran figate. Cioè, lì che abbiamo tirato giù quello, quando abbiamo fatto di Crash la nostra fortezza, ma anche quando io tipo sono impazzito, ho portato via tutto, cioè, secondo me è stata una figata. Che abbiamo splittato il party, scontrati. È vero. Cioè, no, secondo me sono state le parti in realtà più belle. Ma anche quelle di Giulio non avevano senso, però alla fine sono state belle anche quelle, per la verità. Bruci cavalli. No, vabbè, quello un pochino meno, però tipo è caduta la roba lì che ha ucciso il tipo, in effetti, e poi si è trasformato, non aveva senso apparentemente, però invece vedi, alla fine no, però, è tornato... stato, però esatto, tu l'hai strutturata bene, poi è stato figo. Matanas, cioè, ha cominciato già la prima sessione alla one shot. Oh, prendo le cappe e i mantelli che ci sono lì nell'armadio, le butto nel camino e li accendo. Sì, cioè, ma tipo, nel corso dell'avventura ho dovuto un po' abbassare. All'inizio era tipo solo molesto. Poi a un certo punto alcune cose, cioè quando ovviamente uno poi è un po' più, diciamo, dentro l'avventura, alla fine alcune cose erano anche belle, tipo quando tipo se la prendeva con Casimir lì. Cioè, magari di per sé non aveva senso, però era figo, cioè comunque ha fatto delle cose fighe. Per lui aveva poi senso. Sì, sì, sì, no, cioè in realtà di per sé la cosa è stata figa, cioè sono state delle rivalità fighe, cioè di per sé non avevano troppo, cioè non so che problemi avesse con Casimir, però... fare casuali per lui in realtà. Sì, sì, no, però ci sta, cioè nel senso fa parte del personaggio, è giusto, cioè era bello, cioè è stato figo secondo me. Quella allora, parte... è preparata, è vero, quindi può sembrare noiosa, però in realtà poi le scene che ti mette davanti a sono fighe, cioè fatta bene, bella. L'unica cosa che mi dispiace è che non l'ho ammazzato io, Casimir. Li avete abbandonati al loro destino. Ecco, sulla parte di feedback, la fine del Tempio d'Ambra non credo che sia stata un po' strana. Mm-hmm. Beh, cioè, sì, devo trovare un modo per... come dire, per far andare avanti la storia. Quando abbiamo fatto lo scontro che non potevamo vincere, ci hanno tolto le mani. Torniamo al discorso di prima, è stato un po' obbligato Kat a fare una roba del Cioè, la cosa, come dire, il finale che avrei dovuto seguire era, va bene ragazzi, è finita qua, si fa nuovi personaggi. Esatto. Però arrivati a questo punto mi dispiaceva, come anche l'incontro lì nella stanza anche quello nella cripta. Scusa, nell'avventura com'è? Cioè, nel non vecchi Strahd? Ma Strahd, l'avventura è Strahd ti vuole appunto saccagnare per il lungo e il largo per tutta Barovia, e quindi periodicamente lui ti manda contro i suoi sgherri, ti fa gli agguati, giusto per il gusto di umiliarti. E effettivamente è quello che ha fatto parte, esatto. Quindi piuttosto che uccidervi e farvi continuare a soffrire è nel personaggio, perché appunto lui gode di questa cosa, e poi mi piacerebbe anche che magari se c'è qualcuno degno appunto o di essere un buon avversario o di magari diventare un suo erede, in questo modo viene fuori, è come un grosso gatto a cui piace giocare con i topini prima di mangiarseli. Questi topini l'hanno mangiato, certo. E questo però chiaramente come scarafaggio, come Rick contro i topi. Rick Cetrione, piccolo Rick. E questo ovviamente però provoca, come dire, un gravoso allungare del brodo, e appunto soprattutto poi quando i personaggi cominciano ad arrivare a un certo livello, quindi ad avere un sacco di punti ferita, per poterli far finire in situazioni in cui sono in difficoltà, ci metti delle lunghe sessioni in cui cerchi di fargli usare tutte le sue loro risorse, fargli finire i punti feriti. Ecco, queste probabilmente erano quelle che a me davano la sensazione di essere un po'... Ah, capito, che livello caro. Però? Già a quello che eravate voi, intorno al 7-8, cominciava a richiedere un bel po' di tempo. L'anno scorso, ha detto. Esatto. E non nel 2021, qua dal 2020. Esatto. Beh, perché il Lich, appena visto che noi sapevamo dove era il filattere, ci ha dovuto uccidere tutti? Nella cosa che non è mai successa? Me lo ricordo questa, Marco. Sì, perché perché il Lich dice se i personaggi provano a prendere, insomma, anzi se vedono il suo filatterio, lui, dato che è la cosa che lo tiene in esistenza, li vuole mettere a tacere. Sì, ma anche se l'abbia riportato alla sanità mentale. Maggior ragione, magari se era ancora un po' scemo se la poteva far passare, però una volta che vedi il suo filatterio... Qual è stato l'escamotage che l'abbiamo rigiocato? Io non avevo le mani quando ho aperto non la porta. Non avevo le mani per aprire la porta. È vero, me l'ero scordato. Vabbè. Quindi non potevo aprire la porta senza mani. Non potevo aprire la porta. Ma... Ops, piccolo dettaglio. No, cosa volevo dire? Non mi ricordo. Beh, alla fine penso che... Aspetta, Digno. Stay positive. Tanto cos'hai da fare? Devi stare in casa. Aspetta. Ed è un dato di fatto questo. Ah, devo organizzare la festa, scusa, hai ragione. Scusa. Esatto, devo organizzare una festa. Bardistran. Ah, sì, giusto. E... Perché non posso sostenere solo tempo. La prossima avventura la farò io allora. Ta-na-na. La preview. Ai. Oh. La preview. Come si fa a condividere una roba? Schermo, condividi schermo. La maledizione di Bardistran. Più o meno. Allora, aspetta. No, aiutatemi. Ma posso far vedere una singola cosa? Una finestra, sì. Lì sulla apri schermo. Clicchi schermo. Applicazioni, scegli la... Di fianco a video, in basso a sinistra. Ah, ok. Scusa. Condividi schermo. Ah, ok, scusate. Condividi schermo. Sì. Però non c'è quello che voglio far vedere io. Come tecnico da master. Come lo mettiamo? Che non c'è? Dovresti poterla scegliere tutte le finestre che... La vado. Anche condividere tutto lo schermo, in realtà. No. Anche. Niente, solo immagini. The Rise of Trasga. Oh mio Dio. Wow, questo esiste veramente. Questa è la nuova. È il cimitero. Che monumento è? Sì, in realtà è il cimitero. Wow, cimitero. Che figo. Vabbè, nella nebbia. che sarà di Dungeon World. E vabbè, adesso vediamo quando, però presto ovviamente. Quando vuoi la iniziamo, Sì, però adesso ne fai una tu intanto. Quando vuoi, anche se c'è Ombra Imperi puoi andare tranquillo. Esatto. Guarda, proprio no, allora, in realtà, vabbè, io sì, più che altro mi stavo leggendo un po' le regole, perché onestamente non me le ricordo, però vabbè, tanto lo sapete che io sono il master che non sa le regole, quindi mi aiutate anche voi. Ma poi è abbastanza. Dungeon World ci metti tipo 20 minuti. Sì, sono poche. Sì, Dungeon World. Tanto la maggior parte tiri 2 di 6 più qualcosa per fare qualcosa. E quindi, niente, o chiede ai giocatori come vogliono farlo. Esatto, sì, in realtà è vero. E quindi niente, potete pensare intanto che cosa volete fare. Hai degli input per i personaggi, hai qualcosa dell'ambientazione a cui legarsi. C'è io penso che parlerò in una determinata lingua, sappilo. Quando l'ambientazione, vabbè, la scopriamo in realtà piano piano. Cioè, vi farò vedere la mappa, però la vediamo passo per passo e poi vi dico anche un po' l'incipit. Ma sì, in realtà no, potete fare quello che... finale già me lo immagino, la sede di Unicredit, bellissimo. Ma è tipo medievale o è un'altra roba? Sempre fantasy medievale. Sì, fantasy puro. Vabbè, secondo me ci sono dei mostri paludosi da qualche parte. No, fantasy puro. Fantasy puro, niente di trascendentale. Ma direi che potete fare quello che volete, però l'unica cosa starei sul libro base, perché poi non so io come gestire. Io non posso barare, Vettore. Esatto. Avevo già il personaggio sgravo da usare, ma ora che mi hai detto questo... No, non lo so, cioè io non ne conosco altre robe, perché è sgravato, cioè cosa... No, allora, Dungeon World, vabbè, è un sistema aperto, ma c'erano anche 3 manuali ufficiali. In uno di questi manuali c'è una classe che è rotta. Qual è? È la... come si chiama? La lanterna, quello nell'Underworld. Yeah. E è tipo quello che ha una sorta di lanterna verde, che praticamente ha una sorta di spada laser per cui può tagliare le cose, ma qualsiasi cosa, personalità, è completamente rotta. Ma perché? Vabbè, direi che facciamo, cioè visto anche la mia... La cerco, ve la mando. Vabbè, direi che facciamo un po' quelle base, il manuale così, non so se voi l'avete, forse l'avevamo condiviso una volta. A quanto pare ce l'ho, la seconda edizione? Ce l'ho ed è comunque gratis il manuale Dungeon. Sì, dovrebbero essere tutte le regole base, sono online. Basta cercare Dungeon. Oddio, che orrore, ce l'ho in francese. Beh, tutte le regole sono online. Cosa ce l'hai? È online, ma non in maniera illegale. Sì, perché è un sistema aperto, cioè online, è gratis. Sì, sì, è free. Ce l'hai in francese? Sì, ce l'ho anche cartaceo. Sì, ce l'ho in francese, no, ce l'ho anche quello in inglese. Quello cartaceo non è free, però. No, perché no. Paghi se vai in copisteria e te lo stampi diventa free. Quello no. Cartaceo no, non paghi è la copisteria. Non lo stai seguendo, cioè, nel senso. Tu vai in una libreria e ti dicono guarda, questi sono libri gratis, prendili pure. Vabbè, in realtà che poi sono le classi più o meno solite, quindi sì. È tipo proprio su, ecco, si chiama Dungeon Sword. Però sì, boh, vedete un po' voi lì, scegliete voi magari i ruoli. Potremmo anche parlarne nei prossimi giorni, però sì, per me potete fare un po' quello che volete, non è un problema. Siamo lunedì la prossima, direi di sì, non vedo controindicazioni. Penso di essere a casa, ma non sono sicuro. Allora, lunedì. E poi tra l'altro... sì, andiamo. Volevo farvi vedere questa. Questa trasciata. Oddio. Che la conoscete in realtà. Ma sì, è vero. Che in teoria hanno detto, la verremo quando finiremo. Ah, oh, cazzo. Realtà... ma in realtà no. Ah, oh, è vero. magari tra un mese riusciremo a trovarci. Vabbè, al Covid party che faremo insieme. Esatto, bravo Sceo, mi piace quando sei. E non ci sarò però. Positivo. Come non ci sarai? Lo riprendi? Che vuol dire non ci sarai mica? Sì, la riprendi. Sì, easy. Allora ci sta. Organizzati. Va bene. Va bene, Regiz, direi che abbiamo visto tutto, ci aggiorniamo adesso vedo se darvi qualche altro input, ma in realtà no, perché fate quello che volete, non c'è problema, scegliete il background che volete. Forse... ma la mappa è quello che penso io. Ma volete già vedere la mappa? Ma dacci qualche nome di... Vabbè, vi posso far vedere forse... qualche personaggio se vuoi, importante, sì. Qualche cosa che non è c'è in questo posto. Aspetta. No, più che altro tu hai fatto, cioè hai pensato tutto il mondo o solo questa zona di un mondo più vasto che possiamo riempire noi? Sì, potete. Aspetta, vi faccio vedere giusto, ve la mando anche la mappa adesso, poi dopo. Però sì, in realtà potete spaziare tranquillamente, come potrete immaginare. Aspetta che qual è questa? Sì, come potrete immaginare, dove siamo qua? Interrompi streaming, sì, per poi rifarlo, questo. Questa è la mappa. Merda. E poi dopo... merda. E poi dopo... poi dopo ovviamente si potete... No, vabbè, io... No, no, falso Turtlen. Qual è la pronuncia esatta di Mar Torbido? Regno del falso Turtlen. Ah, no, non c'è l'accento alla Yacht che ogni tanto usate. No, non ti preoccupare. Marco Orbido. Longest. Vabbè, quella è una delle terribile. Esatto. Wow. Beh, io mi sento obbligato. Sant'Mary. Cioè, non posso scegliere io. ovviamente ogni posto ha le sue caratterizzazioni, però sì, no, in realtà potete tranquillamente venire da fuori senza problemi. È un capolavoro. Io verrò da oltre il mare, dall'est. Però dovrai parlare con accento. Non c'è problema. Ah, vabbè. Non so, avete visto se ha fatto anche quest'anno Ciao 2021. Sì, perché è capolavoro. Wow. Incredibile. La fine con... La con... fine, cioè, hanno sbancato tutto, porca trova. Ne parleremo la prossima volta, magari sì, adesso. Va bene, ragazzi. Dai, direi che... Hai bisogno sull'idioma ogni tanto per i PNG di piedi. No, bella però, bella davvero. E vabbè, poi dopo possiamo fare un po' qualche video. Crasgal. Ditemi una cosa, se sto cercando di comprare DVD della serie Ash vs Evil Dead, dove li posso trovare? DVD. DVD. Sì, voglio fare un regalo a una persona che ha un video che ha un video che ha un lettore DVD VHS, vabbè, vintage, fai tipo allora VHS. Sì, esatto, bravo. Io farei vintage. Io l'ho guardata su Netflix. Sì, farei prima fargli un abbonamento a Netflix. Boh, vai su Davide, fare un regalo. Ma secondo me quale stagione? eBay probabilmente ce li ha da qualche parte. Sai che sono così facili. Anche Amazon ce li ha. Se regali l'abbonamento a Netflix, secondo me. Faccio prima. Boh, i DVD queste BS. Robe una volta li avevano Media World così, però non so. Sì. No, non so. Un po' puoi ordinare anche dai BS, guarda. C'avevano anche tipo proprio i cosi con tutti i DVD tipo un euro, perché tanto ormai quella roba lì così. Banalissimo, Amazon non ce l'ha. Ma che volevo tutte e tre le stagioni, tipo ce n'è sempre qualcuna che manca. Che serie è? Scusa, non ho capito. Ash versus Evil Dead. Buonanotte. Guarda, ciao. Su. Ciao Salla. Buonanotte, ciao. Vabbè, in realtà possiamo anche chiudere la diretta, direi, per il momento. Va bene, poi dopo vedremo. Grazie per averci seguito. Ultimo episodio, l'epilogo 84esimo della maledizione di Katta. Ciao a tutti. Colpo sul microfono. Continuate a seguirci sui nostri canali social, Tycoons & Dragons e RIMGDR, con le prossime avventure. Grazie per averci seguito e che la maledizione sia con voi, perché noi abbiamo dato. Ciao. Ciao. Se vuoi su